spiritualismo, di dualismo dove si stanza la partenza. Ma la liberalizzazione consiste nel fatto che si chiudano due assiomi oggi molto comuni, ormai anche in Italia, per cui sostanzialmente lo spazio ontologico è esaurito dalle scienze della natura, cioè dall'ontologia delle scienze della natura. Se voi prendete i supplementi culturali dei giornali, molto spesso quando si parla di temi canonici della tradizione filosofica, faccio un esempio perché me ne occupo, insomma, la moralità, libero arbitrio, e poi ci si spinge oltre identità personale, eccetera, si prendono i risultati delle neuroscienze, delle scienze cognitive, come se dessero l'ultima parola sui temi. Insomma, se sostanzialmente il riduzionismo non solo fosse un'ipotesi praticabile, magari lo è, non sono d'accordo, ma fosse un'ipotesi provata e ormai vincente, io non la vedo così, non mi sembra così. Questo dal punto di vista ontologico. Esistono, tutto ciò che esiste nel mondo ha una base materiale, ma non tutte le proprietà di tutto ciò che esiste nel mondo sono materiali. Per questo si richiude anche il secondo assioma tipico di queste forme di riduzionismo naturalistico, ossia l'idea che in linea di principio, e questa è forte anche da noi ormai, in linea di principio la conoscenza genuina è conoscenza delle scienze della natura. Oggi usiamo altre forme conoscitive ovviamente, ma in quest'ottica scientistica, in verità questa è soltanto, queste forme di conoscenza altra sono sostanzialmente succedanee alle scienze della natura, a una scienza della natura matura, quando ci saranno appunto, in linea di principio almeno, forse anche in linea di fatto, potremo un giorno spiegare le cose che oggi spieghiamo con le scienze umane o con la psicanalisi, magari con il senso comune, con l'arte, con la letteratura, si potranno spiegare, se si possono spiegare, con le scienze della natura. Io trovo questo incongruo. Ritengo che il materialismo vada difeso contro rinascenti pensieri teocentrici, spiritualistici, eccetera, ma questo non vuol dire aderire a forme di riduzionismo forte. Quindi ripeto, quel passaggio nell'introduzione mi è sembrato, mi ha lasciato un po' perplesso, perché sembrava desse questa alternativa, che è un'alternativa filosoficamente, francamente, inconsistente, non è così. Voglio dare un esempio, perché voi avete parlato appunto, una premessa, vabbè, qui c'è chi è molto più esperto di me. Freud, naturalmente, Freud in sé aveva degli accenti positivistici, scientistici, come pensava la psicanalisi. Poi il pensiero successivo, questo aspetto sulla psicanalisi, questo aspetto lo ha un po' stemperato. Oggi la psicanalisi, chi difende la psicanalisi lo fa appunto da un punto di vista che non è, credo, dissimile a quello che ho detto io. Insomma, non si nega che siamo esseri materiali, e tuttavia vi sono forme di comprensione della nostra realtà che non sono quelle della scienza della natura. Tuttavia spesso si dice che ormai la psicanalisi non c'è più, non funziona più, è un reperto, una reliquia, perché sostanzialmente ci sarebbero le scienze cognitive. Scusi, può parlare più sul microfono, che da qua si sente poco. Grazie. Cioè l'idea sarebbe sostanzialmente che oggi quello che c'era di buono nella psicanalisi è incorporato dalle neuroscienze, dalle scienze cognitive, e quindi è questo in un quadro di naturalismo di tipo appunto, diciamo, scientifico di cui parlavo prima. Si lamentano ancora, se puoi parlare più vicino al microfono. Più vicino così, lo metto dentro la bocca. No, c'è. Faccio così, un po' più bauto, però. Allora, no, volevo brevemente dire qual è la questione. Per esempio si dice che l'inconscio, la funzione dell'inconscio nella psicanalisi è oggi sostanzialmente ripresa nella misura in cui era utile epistemologicamente dall'idea di inconscio cognitivo. Questo è non bisognerebbe concedere tanto facilmente questa cosa qua, perché che cos'è l'inconscio cognitivo? L'inconscio cognitivo è diverso dall'inconscio della psicanalisi. L'inconscio della psicanalisi era qualcosa che non era inconscio in linea di principio, perché appunto il fine della terapia è riportare potenzialmente alla coscienza i contenuti rimossi. No, l'inconscio cognitivo è il neurale, è qualcosa che è in linea di principio oscuro alla prima persona. Se qualcuno lo può conoscere è la terza persona, lo scienziato che studia con gli strumenti della neurofisiologia gli stati neurali del soggetto, che poi appunto ci guidano, ci conducono all'azione con modalità che noi non controlliamo. Questa è l'idea. Se potessi usare la terminologia di quello che secondo me è il maggior filosofo italiano della seconda metà del Novecento, ossia Ernesto De Martino, direi che questa visione in qualche modo riporta la nozione di crisi della presenza al centro, perché il punto di vista da cui partono questi scienziati riduzionisti, non sono tutti riduzionisti gli scienziati cognitivi, o i filosofi che si rifanno alle scienze cognitive, però molti lo sono. L'idea è appunto sostanzialmente che la funzione della coscienza è comunque e sempre epifenomenica, non ha valore causale, non incide su ciò che accade, noi siamo, come dire, condotti, trascinati, esattamente come De Martino parlava delle persone che erano, appunto, avevano la crisi della presenza nelle civiltà di cui parlava lui. Però il fenomeno era lo stesso, il sentirsi agiti sostanzialmente, l'essere agiti e prenderne coscienza, questo era sostanzialmente la crisi della presenza per De Martino, ed è quello a cui sostanzialmente ci conducono questi studi se sono presi come esplicativi across the board, come dicono gli americani, cioè integralmente, come se spiegassero tutto ciò che c'è da spiegare. Faccio un esempio che è tratto da una maggiore rivista scientifica, Science. Science, per esempio, ha pubblicato un articolo meno di un anno fa in cui si sviluppa una tesi che è popolare in questo ambito, che si chiama oral moral. Cioè l'idea è che il senso della moralità ha la stessa origine biologica del senso del disgusto orale e sostanzialmente conduce a una ripresa dell'emotivismo, sapete, una posizione molto fortunata in teoria morale, ossia per esempio difesa da David Hume, sia pure con sottigliezza e acutezza. Cioè l'idea di Hume era: le scienze, la moralità è sostanzialmente espressione di sentimenti, di passioni, e le ricostruzioni razionali che ne diamo dopo sono appunto razionalizzazioni nel senso anglosassone, qualcosa che noi post factum facciamo per cercare di dare senso a qualcosa che in verità appunto non ha un contenuto. Per questa tradizione dire per esempio che opprimere un bambino o peggio torturare un bambino è qualcosa di errato non è altro che l'espressione di un'emozione. In sé, per questa tradizione, questo enunciato non ha valore di verità, d'accordo? Non ha valore di verità, non è vero, naturalmente non è neanche falso, ma non è neanche vero, perché gli enunciati morali sono solo espressioni di emozioni, come se fossero delle esclamazioni, d'accordo? Questa tesi oggi è ripresa con forza. Ecco, questo tipo di esperimento, per esempio, è citato spesso. Come funziona? Funziona così. Questi scienziati, ormai è una tesi nota, hanno prima indagato il disgusto orale che ognuno di noi manifesta, per esempio, in presenza di un cibo che non gli piace. Per esempio, Ida, cos'è che non ti piace a te? Il cervello. Un esempio. Come, non calzano. So, come è potuto venire cervello. In mente questo esempio? Vabbè, questo il cervello. A Ida non piace il cervello. È provato, e questo è un dato, che se a Ida proponiamo un piatto con un cervello fritto, immagino di qualche animale, no. Lei avrà questa reazione istintiva, che questa è prima di qualunque reazione razionale, solleverà il labbro. Questo è assolutamente comune alla nostra specie e anche ad altre specie. Il punto è che la tesi ormai molto accreditata è che questo tipo di reazione istintiva è la continuazione filogenetica di qualcosa che si trova già negli anemoni, che non sono i famosi amici di Berlusconi che corrompono. Ma potrebbero. No, anzi, forse sono pure quelli. Però c'erano degli anemoni precedenti, stesso livello di moralità, che 500.000 anni fa sostanzialmente hanno vinto la lotta per la riproduzione e per la sopravvivenza, insomma si sono sviluppati nella storia dell'evoluzione, perché hanno, naturalmente con i tipici meccanismi della selezione casuale, hanno sviluppato dei meccanismi che permettevano, l'Augusto Professor Virno, meccanismi che permettevano di sostanzialmente rigettare istintivamente il cibo dannoso, d'accordo? Le sostanze dannose. Quindi questi organismi microcellulari sono riusciti a sopravvivere perché hanno sviluppato dei meccanismi cui automaticamente rigettavano le sostanze dannose. Questo si ritrovano meccanismi istintivi di questo tipo in tutti gli organismi. Fino al nostro, appunto, questo movimento qui altro non è, secondo gli studiosi, ma pare accreditato, pare provato, che la continuazione filogenetica di un meccanismo istintivo assolutamente essenziale per la riproduzione, d'accordo? E anche la continuazione delle specie. Noi istintivamente reagiamo in questo modo quando ci troviamo di fronte a qualcosa di pericoloso dal punto di vista alimentare. Bene, pare che noi facciamo la stessa cosa in presenza di situazioni moralmente spiacevoli. La tesi è, e su questo io non ho da dire, magari è vera, in situazioni spiacevoli noi abbiamo una sorta di ripulsa che fisiologicamente si evidenzia da questo sollevamento del labbro, esattamente nello stesso modo in cui accade con i cibi, d'accordo? Dopodiché, appunto possiamo esprimere giudizi e dare valutazioni, ma che, come dire, sono successivi a questa reazione istintiva. Da qui la rinascita dell'emotivismo, perché le razionalizzazioni sono appunto successive a questa reazione, per cui la morale in verità sta in questa reazione istintiva, a cui poi diamo voce con le parole, eccetera, ma quelle sono ricostruzioni a posteriori. Insomma, la tesi è che c'è lo stesso disgusto nel senso della moralità e nel senso della oralità, cioè dell'oralità rispetto alle reazioni orali al cibo velenoso. Stesso disgusto, dicono nell'articolo. Quindi sostanzialmente la moralità è un prodotto filogenetico, istintivo, e non ha a che fare con contenuti o con giudizi, questi sono solo a posteriori. Ecco, questa è veramente interessante da valutare, una tesi, un esperimento del genere, perché certamente c'è qualcosa di interessante, però c'è anche, credo, certamente qualcosa di sbagliato nella valutazione che se ne dà. L'aspetto interessante, mi pare, insomma, è l'aspetto filogenetico, che dà origine a capacità che noi abbiamo e che sono anche le capacità morali, che certamente hanno una storia evolutiva. Noi abbiamo delle capacità, le nostre capacità morali si radicano nella storia biologica come condizione di possibilità. Ci sono delle condizioni di possibilità biologiche della nostra storia morale. La morale non è qualcosa che cala da un mondo iperuranico, la morale è qualcosa che è radicata nella storia, nella nostra storia di animali. Tuttavia la domanda che ci dobbiamo porre è se la morale sia soltanto questo, se i contenuti della morale, non soltanto le capacità morali, si possano ricondurre a questo tipo di spiegazioni. Io credo di no, per una serie di ragioni. Immaginate una situazione, immaginiamo per esempio che ci sia, vi riporto un caso di un paio d'anni fa che tutti conoscono, quello di Eluana Englaro, non perché io voglia adesso entrare nella discussione bioetica, ma perché mi interessa analizzare cosa succede quando ci sono visioni morali opposte. Immaginiamo per esempio che siamo in presenza di Eluana Englaro ancora, e poi Eluana Englaro, il corpo di Eluana Englaro ancora alimentato artificiosamente e quindi come corpo ancora in vita, e che nella stanza ci siano due persone, diciamo una che difende l'idea della dignità della vita, diamogli un nome perché questo aiuta nello sviluppo, per esempio Stefano Rodotà, che ha scritto molto a suo tempo su questo tema, e dall'altra parte ci sia qualcuno che invece difenda la tesi opposta, quella della sacralità della vita, e quindi sia contrario all'idea per esempio di staccare questa alimentazione artificiale. Immaginiamo che sia Rocco Buttiglione, che pure a suo tempo disse la sua, anche se nessuno se lo ricorda. E allora, prima di staccare, immaginando che Buttiglione entri nella stanza di Eluana prima che sia staccata, entrambi entrano nella stanza prima che sia staccata l'alimentazione, se è vera la tesi, e non vedo perché non dovrebbe esserlo, di questa connessione fisiologica tra moralità e oralità, allora dobbiamo immaginare che Rodotà inarchi il labbro, abbia una reazione istintiva di ripulsa a trovare questo corpo trattato come una cosa in questo modo, quando ormai non c'è più vita e non è più, certamente non c'è niente che valga la pena tenere in vita, d'accordo? Questa è la reazione, quindi la reazione di Rodotà è quella di ripulsa, alza il labbro. Poi, sapete, c'è stata tutta la polemica, c'è stata la decisione del giudice, è stata staccata l'alimentazione. Immaginiamo che entri dunque Rodotà quando ciò è avvenuto, entri Buttiglione quando ciò è avvenuto. Avrà la stessa reazione di Rodotà per la situazione opposta, perché a lui trova ripugnante il fatto che, a suo giudizio, si sia compiuto un atto di eutanasia. Notate, varie cose qua vanno notate. Ci sono due reazioni moralmente opposte che vanno giustificate, perché sono realmente opposte rispetto a situazioni comuni. La prima cosa da notare è che per spiegare una differenza culturale sappiamo che questo tipo di visioni morali da cui originano queste opposte visioni risalgono a circa 3.000 anni fa, non di più. L'idea della sacralità della vita, della dignità della vita, è ancora più recente. Quindi poche migliaia di anni al massimo. Ogni spiegazione evolutiva che si rispetti ha bisogno di decine di migliaia di anni per essere efficace. Quindi, in linea di principio, una spiegazione evolutiva non può spiegare perché in presenza della stessa situazione queste due persone abbiano reazioni fisiologicamente opposte. Ciò significa inoltre che la reazione fisiologica non è la causa, ma è l'effetto della visione morale. Quindi qui l'imputazione causale è opposta a quella che si suppone quando si dice che sostanzialmente la fisiologia è la morale. Qui la morale è il piano culturale che provoca la reazione istintiva in due momenti diversi nelle persone, a seconda delle credenze che hanno, dei valori in cui credono. L'idea che poi sia la stessa valutazione morale. Vi ricordate, no? Detto, loro dicono che è lo stesso disgusto nel caso del cibo e nel caso della moralità, mi sembra sbagliato proprio per ragioni concettuali, logiche. Quando noi diciamo, quando Ida dice che non le piace il cervello fritto, per esempio, non è che io vado da Ida e gli dico, Ida, tu ti sbagli, il cervello fritto lo devi mangiare perché è buono. Questo è sgrammaticato, fare una cosa del genere. Come sarebbe sgrammaticato chiedere, dammi giustificazioni di questa tua tesi, la trovo incomprensibile. Perché? Perché questo tipo di giudizio non ha una componente normativa. Se invece siamo di fronte a Luana Englaro e si chiede a Rodotà e Buttiglione, l'uno può dire all'altro, io non credo in questa tua tesi, penso che sia sbagliata, dammi ragione di ciò che dici, perché lo può fare? Perché c'è la componente normativa che è assolutamente essenziale a quel tipo di giudizio, a quel tipo di situazione. Quindi il tipo di disgusto non è lo stesso per la legge di Leibniz, che dice che due cose che hanno proprietà diverse non sono la stessa cosa. Il disgusto morale e il disgusto orale, uno ha una componente normativa, l'altra no, quindi non sono lo stesso disgusto, proprio per una legge logica. E adesso un'ultima cosa su questo tema, e poi tra l'altro tra poco concludo perché ho detto che facevo veloce. E c'è di più. C'è di più ed è cruciale per dire che la morale non si può ridurre agli aspetti fisiologici. Immaginiamo questo, immaginiamo una situazione in cui c'è un signore un po' razzista, anche qui meglio dare degli esempi, si chiama Beppe. Facciamo per esempio, immaginiamo che sia il nipote di Borghezio. Lui da piccolo è stato educato ai sani valori leghisti di Borghezio, per cui odia tutti gli immigrati, i meridionali, insomma odia il 90% dell'umanità. E soprattutto non vuole che l'umanità vada a casa sua, non vuole nella misura in cui poi non gli serve per lavorare sottopagata, però sostanzialmente detesta le altre etnie, non li vuole in salotto. Immaginiamo che però questo è un ragazzo, diciamo, che poi andando all'università si è spinto sino a Milano, dalle valli della Bergamasca, e ha conosciuto altre persone, ha cominciato a studiare, si è reso conto che quell'educazione che gli è stata data è insopportabile, intollerabile, e diventa un sincero antirazzista. D'accordo? Immaginiamo questa situazione. Ora, torna nel suo paese e trova una persona di un'etnia diversa, ferita a terra, che gli chiede aiuto. Non è affatto implausibile dal punto di vista empirico che la reazione di Beppe, la prima reazione istintiva sia di ripulsa, perché in queste condizioni la prima cosa, l'educazione che abbiamo avuto da bambini, molto spesso si manifesta immediatamente. Quindi possiamo benissimo concedere che Beppe abbia una reazione in cui inarca il labbro, abbia una reazione di ripulsa fisiologica. È ovvio, gli viene da un'educazione che è ancora lì, che lui, contro cui lui combatte giorno per giorno, ma è ancora lì. Però, appena Beppe si accorge di questa reazione istintiva, opera una sorta di valutazione morale della reazione. Dice, no, quello è sbagliato, io non posso fare questo. Cioè, cerca di vincere delle tendenze che ci sono in lui perché sono radicate. Però sul piano morale non le può accettare, cerca di vincerle, si convince di aiutare la persona. Questo è un meccanismo che comunque normalmente capita in ognuno di noi, e questi anche sono studi della parte buona delle scienze cognitive. Ci sono elementi di razzismo, di sospetto del diverso. Quante volte ci capita che ci si avvicini un rom e noi abbiamo la prima tentazione è di... È normale, è così, è un atteggiamento però su cui noi cerchiamo di operare, con il piano della valutazione morale. Ora, questo dimostra che per la moralità è essenziale la possibilità di distaccarsi dalle reazioni fisiologiche. È assolutamente essenziale questa componente nella nostra vita morale. Non sempre lo facciamo. Certe volte non ci stacchiamo e ce ne pentiamo. Certe volte ci lasciamo andare ai comportamenti, appunto, che ci vengono dal profondo ma che non condividiamo razionalmente. E quindi li cerchiamo di vincere. Altre volte aderiamo fortemente alle nostre reazioni istintive, anche questo c'è. Chiaro che nella moralità c'è questa componente istintiva, passionale, però non è tutta la moralità, c'è comunque un gioco con l'aspetto razionale, che è l'aspetto normativo, ciò che si deve e non si deve fare. Questo aspetto non c'è affatto sul piano dell'oralità, d'accordo? Della reazione orale, quella fisiologica, ma non può essere la morale in quanto tale. Ecco, questa era una dimostrazione del fatto, questo esperimento interessante, che se si concede troppo a una visione materialistica un po' brada, si perdono gli aspetti essenziali. Ma non è necessario concedere tutto questo per dire che non siamo fatti come diceva Cartesio, perché niente di quello che ho detto imputa la moralità a una sostanza mente che è irriducibile, distaccata, autonoma dalla sostanza corpo. Noi siamo corpo, siamo passione, ma siamo anche ragione, e c'è un'interazione tra questi due piani. Il piano normativo non si esaurisce sul piano descrittivo. Ecco, questo piano, questo è un aspetto essenziale. E quindi la psicanalisi, soprattutto appunto depurata da certo scientismo iniziale, è in questo piano intermedio, evidentemente. E quindi io credo, appunto, invito a rivedere quel paragrafo, stiamo attenti a dire che se la cultura in qualche modo non è interamente riducibile alla natura, se le categorie con cui comprendiamo i fenomeni culturali non sono integralmente riducibili alle categorie della scienza e della natura, allora c'è il pericolo del dualismo cartesiano. Secondo me non è così. Grazie. Ma dunque, per prima cosa intervengo su quello che ha detto Mario adesso, perché mi sono ricordata mentre lui parlava, dato anche che siamo in questa aula qua, che 2 anni fa, quando vennero Judith Butler e Wendy Brown, qualcuno di voi c'era, proprio Judith impostò la sua relazione, infatti ora capisco meglio perché, sulla questione del perché proviamo repulsione di fronte a un'azione immorale, oppure di fronte alla guerra o di fronte alla tortura, eccetera. Probabilmente lei polemizzava con questo tipo di cose moral oral che dici tu, e lei, questo lo dico, è già un intervento su quello che diceva Mario, propose qui una spiegazione interamente costruttivistica di questo e discorsiva, cioè non c'entra, l'esatto contrario della teoria che ci ha qui raccontato criticamente Mario. Cioè lei disse che perfino le nostre sensazioni e i nostri 5 sensi sono costruiti discorsivamente, infatti lei attribuì le nostre reazioni più o meno di rigetto di fronte a questo e quello proprio al discorso del potere, a come esso viene costruito. Questo per dire come per l'appunto ci sia sempre lotta tra questi due paradigmi, quello di tipo naturalistico e quello di tipo discorsivo. Io poi sono d'accordo con Mario che esiste un terreno intermedio, ma c'è, effettivamente c'è lotta. Teneva perfettamente anche la spiegazione di Judith, cioè che per l'appunto il discorso di per sé sia in grado di arrivare a modificare le nostre percezioni. Affects, lei diceva in inglese, come sapete affects non ha una traduzione precisissima in italiano, ma è insieme sensazioni, emozioni, affetti, eccetera. Questo teniamolo presente perché siccome nel contesto della mattinata credo che si parlerà anche di potere del discorso, comunque oggi pomeriggio se ne parlerà nella sessione di oggi pomeriggio, è bene cominciare a introdurre anche questi termini, questi temi. Dopodiché io vengo un po' alle domande che avete posto nel testo e che io ho raggruppato in... effettivamente il documento è molto complesso, denso e in alcuni punti da discutere. Comunque io le ho raggruppate diciamo in 3 grossi grappoloni. Il primo riguarda il rapporto tra corpo, mente e psiche, quello di cui ha già parlato anche Mario, e tra natura e cultura, e tra corpo, mente e psiche e natura e cultura. Sono queste questioni preliminari, come è stato già detto, oggetto di un dibattito culturale che prosegue, diciamo, dopo il Novecento e che ha animato tutto il Novecento, e che tuttora, diciamo, sottostà a molto pensiero del soggetto, soggetto e soggetto politico. Naturalmente io posso dire solo il mio orientamento, la mia posizione, naturalmente io lavoro all'interno, diciamo, di quella posizione che supera la concezione cartesiana del soggetto, cioè supera o vorrebbe, insomma, superare l'illusione di un soggetto trasparente fondato sulla padronanza della propria mente, sulla sovranità del proprio pensiero su se stesso. Ora, questo introduce già la terza dimensione, quella dimensione psichica, che appunto è una dimensione terza tra corpo e tra corpo e mente, e terza perché lo psichico è corporeo e mentale insieme, e perché è insieme anche ragione e inconscio. Lo psichico è corporeo perché è incarnato e perché il suo lato inconscio parla attraverso il corpo con i sintomi, e dunque porre la dimensione psichica significa già superare il dualismo mente-corpo. Però io non parlerei mai, come invece fa il documento, di una ricomposizione tra corpo e mente. Ricomposizione mi sembra una parola impropria, e non parlerei neanche di una unità tra mente e corpo. Mi pare piuttosto che dovremmo pensare un insieme mente-corpo che non va a unità e che vive anzi di continui ostacoli a una ricomposizione, che vive in sostanza di un rapporto non dialettico tra i due termini, di un rapporto in cui per secoli nella tradizione della razionalità occidentale la mente si è applicata a superare i limiti del corpo e il corpo è rimasto lì a ricordare alla mente i suoi limiti. La dimensione psichica però, e questo è un punto da tenere presente per, così, rispetto a quello che dirò più avanti, non serve soltanto a rifiutare la concezione mentale del soggetto e di conseguenza, come fa il testo, quell'idea razionalistica e volontaristica di libertà propria dell'individuo liberale moderno e del soggetto politico sovrano. Soggetto politico, quando io dico soggetto politico sovrano, intendo che a questo modello afferiscono sia la sovranità dell'individuo che la sovranità politica. Serve anche a non cadere sul versante opposto, di pensare un corpo in sé, a sua volta sganciato dal mentale e dallo psichico, che a me pare un errore altrettanto frequente di quello opposto, soprattutto in molta letteratura foucaultiana. Insomma, ritorna in molto pensiero che si rifà a Foucault questa tentazione, diciamo, di pensare il corpo come corpo a sé, un corpo che un po', poi secondo me infatti è un corpo morto, come fantasma, perché è un corpo appunto sganciato dalla dimensione psichica e in particolare dalla dimensione dell'inconscio. Su questo poi tornerò più tardi. Per ora passo al secondo grappolo, che è relativo alle questioni, è relativo all'ordine simbolico, e qui le questioni che il testo pone mi sembrano due. La prima riguarda la natura dell'ordine simbolico, in specie la questione della sua astoricità o storicità, e la seconda riguarda quel plesso di circostanze, di fenomeni del presente che vanno sotto il titolo di ordine simbolico edipico o lacanianamente ordine simbolico incardinato sul nome del padre, insomma, e riguardano anche le conseguenze di questa crisi sul soggetto di desiderio, sulla forma della legge e sulla costituzione del soggetto politico. Allora, comincio dalla prima questione, la questione della fissità o della storicità dell'ordine simbolico. Naturalmente questa non è una questione risolta teoricamente, non è risolta, ne discutevo l'altra sera con uno studioso di Lacan che si chiama Massimo Recalcati, che molti di voi conoscono, non è questione risolta nello stesso Lacan, che pure in teoria concepisce l'ordine simbolico come una struttura necessaria e fissa e dunque immodificabile per vie politiche. Ma poi, per esempio, quando scrive di crisi del padre, lo fa non a caso, secondo me, a ridosso di due momenti storici decisamente significativi, nel 38 in pieno nazismo e nel 68 in pieno movimento antiautoritario. Ed è difficile pensare, non so cosa ne pensa Davide, che questa, scusate il bisticcio, pensabilità della crisi dell'ordine simbolico gliela abbia portata la cicogna e non questi, e non l'abbia posta alla sua mente l'urgenza di questi due fenomeni storici contingenti. Quindi evidentemente la questione della storicità o della, almeno della permeabilità del simbolico alla storicità è una questione che attraversa lo stesso pensiero lacaniano. In ogni caso è la questione posta dal pensiero della differenza italiano. Come scrisse anni fa Luisa Muraro in un testo in cui dialogava con una studiosa americana, con Teresa De Laurentiis, è esattamente la nostra scommessa, la scommessa della cosiddetta politica del simbolico del femminismo italiano, e che l'ordine simbolico sia modificabile per una via storico-politica. Sempre a Luisa Muraro, che ne parla in Maglia Uncinetto, in un testo che si chiama Maglia Uncinetto, si deve l'ipotesi, che a mio avviso è convincente, almeno è la più convincente che io abbia trovato, sui rapporti tra ordine sociale e ordine simbolico. Luisa dice c'è tra questi due ordini un rapporto di complicità. Complicità non è derivazione, non configura nessun automatismo dal sociale al simbolico, dal simbolico al sociale, ma stabilisce un nesso. E se tra ordine sociale e ordine simbolico c'è un nesso, vuol dire che l'ordine simbolico è permeabile dalla storicità. Però attenzione, questo lo dico a chi ha scritto il documento, perché storicità non è storicismo, E quindi assumere la storicità dell'ordine simbolico non significa in nessun modo, secondo me, presumere mai una sua evoluzione storica lineare, del tipo prima c'era l'Edipo, adesso non c'è più, prima c'era il nome del padre, adesso è in crisi e domani magari sparirà. Altri studiosi, come per esempio Ernesto Laclau, che è un altro che di simbolico se ne intende, parla da qualche parte, adesso non ricordo dove, credo nel libro scritto appunto con Žižek e Butler, che uscirà tra poco in Italia, di momenti di condensazione e di decondensazione dell'ordine simbolico, che certo può essere preso anche un modo per riaffermarne flessibilizzandola la fissità, ma io comunque penso che per noi sia già un buon risultato imparare a vedere l'ordine simbolico, a leggere la dinamica dell'ordine simbolico, a scorgerne appunto la complicità con l'ordine sociale, a coglierne le crepe e a cercare di tenerlo presente quando parliamo di formazioni sociali e di problemi politici, oltre che di problemi del soggetto. Vengo perciò alla seconda questione di questo secondo grappolo: di che cosa parliamo quando parliamo di crisi dell'ordine simbolico edipico? Adesso, questa è una materia, diciamo, che il documento attraversa, l'assume, la dà un po' per assodata, per scontata. Io cercherò di problematizzarla in un certo senso. E affronterò per ultima la domanda che il documento pone invece subito, e cioè se sia stato il movimento delle donne in quale misura a provocare questa crisi dell'ordine simbolico paterno edipico. Questo lo vedrò, lo dirò per ultimo. Prima invece seguo una traccia lacaniana, o se volete la traccia di un lacaniano, il succitato Recalcati. Potrei seguire anche altri autori, potrei seguire Žižek, che non se ne distacca troppo. Entrambi parlano di un declino del padre, Recalcati parla precisamente di evaporazione del padre, e ne parlano come se in questa evaporazione o crisi o declino o tramonto, quello che volete, il femminismo, le donne e la madre non c'entrassero per nulla. Cioè, come se appunto la crisi, il tramonto, l'evaporazione del padre fosse qualcosa che si spiega a partire da se stesso. È una crisi che riguarda una struttura che a un certo punto si incrina. Secondo questa traccia di Recalcati, che io peraltro trovo molto pregnante, ancorché appunto parziale, noi oggi siamo in presenza di una crisi dell'ordine del padre che riverbera sia sulla formazione del soggetto individuale, sia sul legame sociale, sia sull'ordine politico. Naturalmente né lui né io adesso ci riferiamo alla crisi di ruolo o di identità dei padri reali, che pure circola intorno a noi, è uno dei sintomi, diciamo, psicologici del presente. Ci riferiamo invece alla crisi del padre come figura normativa, direi come forma della legge, come funzione logica prima che psicologica, che consente il differimento della pulsione e del godimento introducendo un limite e innescando così il movimento del desiderio. Il desiderio, a differenza del godimento, nasce da una mancanza, no? Laddove invece il godimento è come un tutto pieno. La crisi del padre sarebbe quindi in sostanza una crisi del vertice edipico, di quel vertice edipico che assicura un'alleanza o una dialettica tra il desiderio e la legge. Che cosa subentra alla crisi del vertice edipico e del romanzo di formazione del soggetto basato sull'Edipo? Recalcati dice subentrano due tendenze. Da una parte un recupero nostalgico del padre primordiale, del padre fondamento, del padre totemico, di un padre insomma onnipotente, senza ferite, pre-edipico, perché il padre edipico naturalmente è il padre lesionato dall'uccisione simbolica che ne fanno i figli. Invece è quello che subentra al posto della crisi del padre simbolico, sarebbe un ritorno del padre presimbolico, del padre appunto onnipotente dell'orda, che si realizza oggi nelle religioni fondamentaliste o anche negli atteggiamenti fondamentalisti, insomma, e che è solo una compensazione reale, nel reale, questo lo dico in senso lacaniano, reale, del declino del padre simbolico. È la stessa reazione, scrive Recalcati, che si ebbe come reazione vincente nel 38, quando Lacan scriveva il primo saggio dedicato alla crisi della figura paterna, e è la stessa risposta che si realizzava allora nella forma dei totalitarismi, insomma. Ma oggi questa invece è una reazione minoritaria. La reazione maggioritaria è invece l'imporsi di quello che qui veniva presentato nella presentazione di Pierluigi come un ordine orizzontale basato sul godimento, no? E il realizzarsi più precisamente di quello che Lacan nel suo saggio su questo, che invece è del 68 e ora dirò qualcosa su questa data, chiamava l'universalismo del discorso del capitalista, detto in sostanza il dilagare su scala globale della forma di merce, del consumo di merce o di relazioni mercificate, quindi di quella forma di godimento a cui faceva riferimento Pierluigi poco fa, dove alla legge del padre che comanda tu devi o non devi fare questo o quello, si sostituisce l'ingiunzione devi godere. Quindi il padre, da figura del limite, della legge e del divieto, diventa invece la figura del comandamento al godimento. Questo naturalmente, come è stato già detto nell'introduzione, come viene scritto nel documento, ha una serie di effetti a cascata sul romanzo di formazione del soggetto, che fuoriesce dal binario di crescita e disciplinamento basato sulla dialettica desiderio-legge e ruota verso una forma di individualismo narcisistico ripiegato su se stesso, incapace di differimento del desiderio e capace solo di godimento e di consumo. Ha effetti sul legame sociale, dove si manifesta in una compresenza di isolamento esasperato e di comunitarismo soffocante, nonché in una diffusione, diciamo, di illegalità e di rifiuto per l'autorità della legge. Ha effetto naturalmente anche sul rapporto con le figure carismatiche, col leader che non incarna più la forma della legge ma l'imperativo al godimento a sua volta e l'autorizzazione all'illegalità, e non induce più, come aveva ipotizzato Freud nel suo scritto sulla psicologia delle masse e l'analisi dell'io, un investimento revocabile ma un'identificazione, come dire, collosa e istintiva. E ha effetti poi anche su una serie di, su una sintomatologia molto diffusa nel presente, ma su questo lascio perdere, la diffusione dei cosiddetti nuovi sintomi legati tutti a un eccesso di presenza dell'oggetto, cibo, sostanze, oggetti di consumo e via dicendo, tutti sintomi molto difficili da elaborare linguisticamente e dunque psicoanaliticamente. Ora vanno notate due cose di questa ipotesi che io qui ho riportato. La prima è questa, lo dicevo poco fa, solo una configurazione possibile del declino del padre. Come dicevo, Lacan parla di crisi dell'imago paterna anche nel 38, quando la risposta prevalente è appunto quella paranoica del totalitarismo. Quella attuale sarebbe quindi una configurazione che emerge in relazione a una certa forma del capitalismo e della democrazia contemporanea, nonché del passaggio, per dirla in termini di gergo filosofico-politico, oggi molto in voga, dal paradigma della sovranità a quello della governamentalità, quindi da una certa forma della legge a una certa forma invece della proliferazione normativa. E quindi di nuovo per questa via compare una complicità tra ordine simbolico e ordine storico, no? Se diciamo negli anni 30 la risposta prevalente era quella di tipo paranoico, che oggi invece è quella minoritaria che si realizza nei fondamentalismi, mentre oggi la reazione prevalente è quella della risposta del capitalista, è evidente che questo avviene anche in rapporto con alcune trasformazioni dell'ordine sociale e storico. La seconda cosa che va notata di questa ipotesi sulla crisi del padre è che il punto di partenza di questa crisi sarebbe dunque il 68, lo scritto di Lacan a cui ci si riferisce appunto è quello del 68, del 68, e il 68 è visto naturalmente come grande attacco all'autorità paterna e alle sue alle figure sociali e politiche dell'autorità paterna, alle istituzioni, lo Stato, la Chiesa, la famiglia, eccetera. Il 68 si presenta dunque anche in questo tipo di analisi delle vicende dell'ordine simbolico, come un punto dirimente, una data periodizzante. Io questo lo sottolineo qui dentro perché noi siamo in presenza, diciamo, siamo in un momento storico in cui il 68 viene piuttosto derubricato o rimosso o maledetto, invece quando poi si ragiona di cose serie ce lo ritroviamo sempre tra i piedi come una data ineludibile, una data periodizzante che comunque ha prodotto dei grossi fatti, non solo storici ma per l'appunto anche simbolici. Però naturalmente l'interpretazione del 68 non è univoca, no? La crisi del padre e la messa in questione del vertice edipico possono essere interpretate, sono state interpretate anche in un senso completamente diverso rispetto a quello che ho sommariamente riportato. Sono state interpretate in chiave, per esempio, totalmente liberatoria. L'anti-Edipo di Deleuze e Guattari può essere preso come il testo di riferimento di un'interpretazione, appunto, libertaria e liberatoria della dissoluzione del teatro edipico, della fine del soggetto di desiderio basato sulla mancanza, della nascita di un legame sociale rizomatico che si sostituisce a quello verticale edipico, di una ontologia positiva che rifiuta la stessa nozione del desiderio come mancanza. Io penso personalmente, come del resto Recalcati, che questa filosofia abbia dimostrato alla lunga una qualche collusività con il discorso del capitalista, ma questo è un punto di discussione, io credo che sia un punto di discussione che sottostà anche non esplicitato, io l'ho solo esplicitato al documento che avete scritto. e varrebbe certamente la pena di discuterne. Spero che Davide Tarizzo dopo intervenga anche su questo. È però possibile ancora un'altra interpretazione. Se noi inseriamo nel quadro della crisi della figura paterna quello che nel frattempo è successo alla figura della madre, ovvero se noi inseriamo nel bilancio del 68, come è doveroso fare, quello che è successo con l'apertura, oltre che del conflitto anti-autoritario dei figli contro i padri nel 68, quello che è successo con l'apertura del conflitto femminista, diciamo così, delle sorelle contro i fratelli. Infatti nel discorso lacaniano, a cui ho fatto riferimento finora, cosa succede? Che la madre è la grande assente di questo discorso sulla crisi del padre. Non si capisce in questo discorso sulla crisi del padre che fine fa la madre, e io ho l'impressione, ma di questo dirà Manuela, magari smentendomi, che la madre continui ad aggirarsi come un fantasma regressivo in questo discorso sulla crisi del padre, come il fantasma di una pienezza originaria che va appunto superata con la castrazione di cui è garante il padre, e insomma da questo schema non ci si discosta nella teoria, se non che ci si è discostati da questo schema per l'appunto nella prassi. In fondo quello che noi possiamo dire del portato simbolico del femminismo è precisamente che il femminismo, per dirla nei termini di Lucy Rigarai, ha sottratto la madre al rimosso in cui si trovava nell'immaginario patriarcale e ha aperto la strada a una simbolizzazione della madre, a una, diciamo, a un passaggio della madre dall'immaginario al simbolico, da una figura dell'immaginario a una figura del simbolico femminile. E in questo passaggio anche la madre diventa una forma, diventa la forma della relazione, per l'appunto, diventa il significante della forma della relazione. Si può in altri termini sostenere con buone prove e buone ragioni che la crisi del padre contemporanea, cosiddetta, è coestensiva a un emergere della madre come figura della relazione, quindi come figura di un legame sociale basato non più sul sacrificio del padre, quindi su un assetto sacrificale del legame sociale, ma sulla relazione come forma appunto della coesistenza e del patto sociale. Questo lo dico anche per ricordare che la mossa del femminismo non è una mossa semplicemente di rivalutazione della madre, è una mossa che io chiamo di trasvalutazione piuttosto della madre, perché non si tratta semplicemente di portare a galla ciò che era sommerso, si tratta anche di risignificarlo e di valorizzare appunto la relazione primaria con la madre come forma di una relazione su cui il patto sociale può essere incardinato al posto della piramide sacrificale su cui notoriamente è incardinato nella teoria politica classica, l'uccisione del padre, la figura totemica del sovrano, il patto tra fratelli che sostituisce il potere paterno, eccetera, eccetera. Quindi quello che io sto sostenendo è che questa lotta sul piano del simbolico è stata aperta appunto dal femminismo, che quindi la crisi del padre avrà certamente delle ragioni autonome, diciamo, ma certamente è stata anche provocata dal movimento politico delle donne, da ciò che esso ha significato sul piano simbolico, e che quindi oggi non siamo soltanto in presenza di questo collasso tragico della figura del padre, della legge paterna, che aprirebbe appunto questo scenario devastante di pura economia del godimento, perversione dell'oggetto, eccetera, eccetera, siamo in presenza invece anche dell'emergere di un principio, di una forma della relazione che può aprire una nuova configurazione del patto sociale, e in realtà ci sono ampie prove che abbia già funzionato in questo senso. Il principio materno, insomma, secondo me non è semplicemente un progetto del pensiero della differenza sessuale particolarmente italiano, è invece un principio che tra prassi e teoria è già all'opera oggi, ha già costruito nel corso dei decenni delle trasformazioni sia sul piano del simbolico sia sul piano del sociale. Affermazione dalla quale deriva che il panorama del soggetto contemporaneo è più mosso, come dicevo poco fa, di quanto non dica invece il quadro alquanto disperante, nonché pericolosamente esposto a rigurgiti di autoritarismo che viene fuori dal discorso della crisi del padre nelle sue espressioni così più autorizzate e autorevoli. Bisogna quindi pensare insieme questi due processi, crisi dell'ordine del padre ed emergere del simbolico della madre, che vuol dire saper leggere il gioco della differenza sessuale. Io non voglio sottrarmi alla domanda che il testo pone, che Pierluigi ha riproposto nella sua introduzione. Lui ci ha chiesto se la differenza sessuale rimane al riparo come operatore simbolico della metamorfosi post-edipica, giusto? Sì. E io rispondo certo che no, ma questo no va inteso in due sensi. Perché, come ho cercato di dire, ne è coinvolta come agente scatenante l'azione appunto che la differenza femminile ha portato sull'ordine simbolico del padre, ma anche perché ne è investita. Quindi io penso che sia investita dai processi che tu e anch'io abbiamo descritto di trasformazione del soggetto, eccetera, eccetera. Tutte e due le cose sono vere, e per saperle vedere bisogna ovviamente tenere conto dello scostamento che c'è tra la differenza sessuale come operatore simbolico e i referenti reali donne e uomini. Io non arrivo qui a dire assolutamente, come i lacaniani, che questo scostamento è uno scollamento, cioè che tra l'operatore simbolico e i referenti reali non c'è nessun rapporto. Io penso che il rapporto ci sia, e come, però penso che ci sia anche uno scostamento che rende impossibile ascrivere, diciamo, tutte le donne all'ordine della madre emergente e tutti gli uomini al soggetto di godimento che discende dalla crisi dell'ordine del padre. Non è così, i fatti sono più complessi e più incrociati, lo si diceva già ieri, anche le vicende della cronaca dimostrano che c'è, diciamo, uno scivolamento anche femminile verso le patologie del godimento, evidente, della perversione consumistica, eccetera, e viceversa, a mio avviso, l'ordine della madre contagia, ha già contagiato ovviamente anche gli uomini, non è qualcosa che attenga semplicemente o sociologicamente, diciamo, alle donne. Un ultimissimo grappolo di questioni che voi ponete sotto il titolo dei rapporti tra biopolitica e psicoanalisi, e che invece io unificherei sotto il titolo "Che ne facciamo in politica del soggetto dell'inconscio". Ho finito, questo sarò brevissimo, anche se il discorso sarebbe lunghissimo, ma io dirò solo l'essenziale. Credo che sia chiaro da quanto abbiamo detto che ragionare in termini di ordine simbolico significhi ragionare sempre anche in termini di soggetto dell'inconscio, di un soggetto cioè che è per l'appunto parzialmente soggetto a dinamiche che non passano per il canale della ragione, ma lo afferrano anche sul piano dell'inconscio e dell'immaginario. Questo aprirebbe però un discorso che non è assodato, mi accorgo che non è assodato anche dalla lettura del documento, su che cos'è il soggetto dell'inconscio e su che cos'è l'inconscio. E l'inconscio non è né una riserva di irrazionalità, né un serbatoio di rimosso che si tratterebbe via via di portare allo scoperto finché non resta più niente di rimosso e tutto è diventato trasparente, tantomeno l'inconscio è un alibi deresponsabilizzante. Assumere il soggetto come soggetto dell'inconscio, voglio dire, non significa assolverlo dal problema della scelta e della responsabilità morale, al contrario. Se noi concepiamo l'inconscio come va concepito, cioè come un'energia creativa che non smette di intercettare i nostri comportamenti razionali arricchendo e complicando anche il piano della responsabilità, quello che ne deriva è anche un arricchimento, diciamo, della nozione di azione politica e di efficacia dell'azione politica, nonché della nozione di potere. Ne deriva, per esempio, che il potere, i poteri, le relazioni di potere, per dirla al plurale, come oggi è foucaultianamente d'obbligo, sono relazioni che passano anche per il piano dell'immaginario e dell'inconscio. Per esempio, diciamo, quello a cui noi abbiamo assistito nel corso dell'ultimo anno con gli scandali sessuali cosiddetti di Berlusconi hanno messo in luce la capacità di un certo potere, particolarmente di un potere molto costruito sui mass media, sull'uso dei media, di afferrare, diciamo, il consenso passando attraverso alcune perversioni, e la valorizzazione, diciamo, delle perversioni. E questo è un tipo di potere che evidentemente passa appunto attraverso l'inconscio, oltre che attraverso l'immaginario sul versante dei media, eccetera. Ora, qual è il problema? Naturalmente questo comporta un modo di immaginare l'azione politica come azione che passa assolutamente, soprattutto attraverso il linguaggio, la risignificazione, l'elaborazione simbolica di elementi grezzi che provengono dall'immaginario, e insomma tutto il modo in cui il femminismo soprattutto ha arricchito il senso dell'azione politica, il senso della politica del discorso, del simbolico, e anche il senso dell'azione come azione significante. Ricordiamoci sempre che la parola è azione e l'azione agisce come la parola. Però quello che io voglio soprattutto dire, e ho finito davvero, è che del soggetto come soggetto dell'inconscio non è vero che si dimentica soltanto il paradigma politico della sovranità tradizionale. Quello era un paradigma politico che prendeva il soggetto, che prende tuttora il soggetto, solo dal versante della razionalità, di una mente libera. Non è vero però, e non è garantito, che invece il paradigma biopolitico si ricordi del soggetto dell'inconscio, perché quello che fa invece spesso il paradigma biopolitico è che cade invece nella scissione opposta dalla quale siamo partiti stamattina, la scissione tra corpo e mente, tra corpo psichico e cultura, eccetera, eccetera, e assume invece il soggetto come puro corpo, come il corpo come superficie di inscrizione dei poteri. Di nuovo, in questo caso, la dimensione psichica scompare, il soggetto dell'inconscio scompare. Dunque, io penso che bisogna stare molto attenti a non cadere nel rovescio della trappola in cui si cadeva col paradigma politico di tipo tradizionale, e non tornare anche attraverso il paradigma biopolitico a sottintendere un soggetto scisso tra corpo e ragione, di cui si prende a seconda delle convenienze una volta un pezzo e una volta l'altro. Grazie. Quello che voleva dire è stato un po' di liberale, quindi che c'è, cioè, questo documento che avete mandato, una parte incomprensibile che si riferisce evidentemente a quelle occasioni e anche quelle modi di studiare a livello delle altre. E ho fatto prelievi gli argomenti, i temi che tu sei a Salerno principalmente. Un interprete come donna e come giornalista. Questi tre sono lo psichico, la sensazione dello psichico. Per quanto intendiamo per psichico e come la psicoanalisi intende che lo psichico si formi, perlomeno una certa psicoanalisi. Non tutta la psicoanalisi è d'accordo sulla formazione dello psichico, la relazione che abbiamo sentito all'inizio dice molto chiaramente che in questo momento il peso che hanno le neuroscienze sul modo di concepire la formazione dello psichico è molto forte. Ciò nonostante è estremamente contraddittoria, malgrado la pretesa di osservabilità e oggettività che le neuroscienze propongono. Peraltro non è neanche giusto dire questo, perché un pensatore come Damasio non sognerebbe mai di dire che è osservabile oggettivamente, che sono osservabili oggettivamente neanche i processi neurofisiologici e la loro formazione. Comunque. L'altro è, a proposito dell'ordine simbolico, la sua trasformabilità o meno. Io francamente non vedo come sia possibile immaginare un ordine simbolico che non si trasforma, che cosa simbolizzerebbe, vorrebbe dire che è completamente scisso dall'esperienza, quindi che cosa simbolizza. Ma invece mi interesserebbe un attimo mettere l'accento sulla differenza fra simbolo e sintomo, perché la psicoanalisi è su questo che ha operato. E non solo ha operato su questo, ma è esattamente su questo che il pensiero della differenza ha apportato grandi differenze. Su questo non credo che ci siano dubbi. Perciò la donna da oggetto di studio è diventata un soggetto che ha parlato in proprio di che cosa ha voluto dire essere il sintomo di un'intera civiltà e di un'intera cultura. La terza parte, ma sono sempre io li affronterò brevemente, è quella che si chiama l'evanescenza della funzione del padre e le ricadute che questa evaporazione, come la chiama Recalcati, direi la crisi della figura paterna, ha sugli eccessi che vanno a ricadere, che hanno una ricaduta sulla figura materna, sia che le donne vogliano sia che le donne non vogliano, nel senso che è difficile mettere a tema la differenza nel momento in cui scompare uno dei soggetti della differenza o apparentemente scompare o diciamo è evanescente, evapora. Cominciamo dalla formazione dello psichico. Io mi riferisco con precisione intanto alla grande rivoluzione fatta da Melanie Klein, e qui non la starò a riportare, ma Freud aveva lasciato la madre assolutamente sullo sfondo, il padre dominava la scena in maniera assoluta e niente affatto in maniera sciocca, la madre era proprio impensabile per Freud e apparteneva all'ordine dell'impensabile e dell'irrappresentabile, la madre in quanto anche donna, quindi una madre che portava con sé il sessuale. Lo psichico come nasce? Secondo i pensatori che io seguo e che mi hanno convinto, seguo non vuol dire che sono d'accordo con tutto ciò che hanno detto, ma che sono stati per me dei punti di riferimento, sono due donne, Melanie Klein e Pierre Aulagnier, e due uomini, Lacan e Laplanche. A parte Melanie Klein, che è sicuramente una delle fondatrici della psicoanalisi dopo Freud, gli altri due, Laplanche e Aulagnier, sono due allievi di Lacan che si sono smarcati dal maestro pur non avendo commesso parricidio e quindi la cui differenziazione dal pensiero di Lacan ha portato, a mio parere, grandi contributi che non sono sufficienti ma sono necessari perlomeno per la concezione dello psichico così come io la intendo. Lo psichico è ma questo già Freud lo diceva, è una formazione, diciamo, la pulsione, scusate, lo psichico è fondato sulla pulsione, sulla pulsionalità, e la pulsione non è l'istinto, Questa differenza sostanziale che Freud fece è stata poi ereditata e sempre osservata da tutti coloro che sono andati oltre la scoperta dell'inconscio di Freud, che io chiamerei l'invenzione dell'inconscio di Freud, per dire che neanche quello è da sempre lì, è qualcosa che si forma esattamente per via della presenza della pulsione. Che cos'è la pulsione? È una formazione di compromesso fra il discorso che viene dall'altro e la presenza dell'altro e il nostro proprio corpo. Potremmo dire che intanto sorge la pulsione in quanto all'interno di una relazione che ci vede totalmente impotenti all'origine della vita c'è qualcuno che non solo si prende cura di noi, ma che fornisce il discorso che mette in forma per noi e anticipa per noi ciò che noi per un lungo periodo soltanto siamo. Noi siamo il nostro corpo e la nostra sensorialità. C'è qualcuno che mette in forma questa esperienza, la anticipa anche violentemente, vuol dire che la presuppone, non la può mai completamente dimostrare come vera, ma ci fornisce le parole, l'immaginario, il linguaggio, tutto ciò che servirà a fare di questa esperienza che noi facciamo del nostro corpo un'esperienza che ci permetterà di possedere il nostro corpo, ovvero di dire che non siamo solo quel corpo, ma che noi abbiamo il nostro corpo. Nasce così l'io corpo. Questa è più precisamente la teorizzazione di Pierre Aulagnier, ma dobbiamo, a mio parere, accostarla a un importante elemento della teoria di Laplanche che lui chiama teoria della seduzione generalizzata. Laplanche non ce la fa fino in fondo a dire che è sicuramente di marca femminile ciò che permette l'innesto della sessualità su quell'essere solo sensoriale che noi siamo alla nascita, ma diciamo che fra le righe ce lo dice e ci dice che è esattamente in quell'epoca della vita nella quale c'è una nostra sensorialità molto attiva e un'altra sensorialità che è quella, diciamo, quello che si chiama il caretaker, che si prende cura, è ovviamente la madre o chi fa la funzione della madre, vuol dire che entra in un contatto con il bambino, ovvero colui che non ha né linguaggio né autonomia di movimenti né i mezzi per la propria sopravvivenza, entra in contatto con questo bambino non solo sulle funzioni della cura, ma anche sulle funzioni del piacere. Vuol dire che l'oggetto bambino è un oggetto erotizzato dalla madre. Laddove questo non accada per niente, ci sono guai seri. Vuol dire che la sessualità arriva a noi dal desiderio che al bambino risulta enigmatico, che la madre mette nelle cure che fornisce al bambino, che sono, a mio parere, e su questo poi potremo anche aprire un discorso, non sono affatto, non è un desiderio tutto e soltanto dedicato al bambino, ma dedicato moltissimo anche al proprio piacere di avere quel bambino, che non vuol dire necessariamente che c'è un travaso completo di questo investimento libidico che c'è sull'impresa della maternità, tutta sul figlio. L'impresa della maternità è anche un'impresa che appartiene al piacere puro della donna. E non è certamente l'unico piacere su cui fonda la propria capacità di piacere. E allora vediamo di riassumere, la pulsione è quindi una formazione che ha a che fare sia con un aspetto somatico sia con un aspetto di linguaggio. È quindi una formazione di compromesso che cosiddetto azzererebbe, come dire, nel corpo il nucleo della propria soggettività, perché è un corpo che si anima soltanto perché l'altro lo parla e ci parla. Ma non è così, perché c'è da proporre un'inversione che molto spesso noi analisti ancora non accettiamo, ed è che noi arriviamo all'istinto dopo la pulsione e non partiamo dall'istinto. Questo non vuol dire che noi non abbiamo degli istinti, ma che non sono assolutamente per noi né conoscibili né in qualche modo praticabili se non ci fosse una pulsione che ha un aspetto soggettivo che si fonda su quell'elemento assolutamente irripetibile, che è il corpo sensoriale di ognuno di noi. Quindi un bambino che nasce ed entra in contatto con un adulto possiede anche un corredo che non è uguale a quello di un altro bambino, e quindi la stessa funzione, lo stesso desiderio materno dovranno incontrare, dovranno ritagliare la sagoma di questo corpo, le cui risposte anche funzionali sono assolutamente segrete, e sono per sempre segrete. In questo senso io la distinzione che voi avete proposto e che evidentemente appartiene a teorizzazioni attuali fra orizzontale e verticale, io non la posso fare se non in termini che sono anche banalizzanti. Io definirei orizzontale tutto il piano delle relazioni con l'altro, che è proprio altro da noi, e verticale tutto ciò che ha a che fare con la rappresentazione di questa relazione che noi abbiamo con l'altro, e quindi è un piano interno e largamente segreto alla nostra cosiddetta mente, ed è il motore non solo del nostro desiderio, ma anche, e qui passiamo al secondo punto, dei nostri sintomi. Se non vi fossero stati dei sintomi, la psicoanalisi non avrebbe avuto alcun motivo di sorgere, perché sarebbe assolutamente bastata la filosofia, sarebbe bastata la poesia, sarebbe bastato ciò che gli umani si scambiavano fra loro. Evidentemente il sintomo, che molto disturbava l'ordine sociale nel quale erano immersi alcuni soggetti, ha avuto bisogno di essere riordinato in qualche modo. E le isteriche erano veramente molto disorganizzanti. Portavano con sé un messaggio che era inquietante ed enigmatico allo stesso tempo, perché era un sessuale scoordinato e disordinato. Anche se l'isteria non si è presentata immediatamente come una componente sessuale, perché Anna O, ovvero Bertha Pappenheim, si è presentata come una donna affetta da gravissimi disturbi alla vista e all'apparato motorio, ma ci è voluto il sintomo finale in cui ha pensato di essere incinta del dottor Breuer, perché finalmente emergesse l'aspetto del transfert che Breuer aveva assolutamente negato, anzi proprio non lo poteva vedere, e che Freud sicuramente vedrà, ma resterà enigmatico anche per lui. Perché se pensiamo alla conclusione drammatica del caso di Dora, è drammatica per l'analista più che per la paziente, perché Freud non comprende che il sessuale che Dora porta così potentemente, come attraverso vari sintomi, dentro la relazione analitica che ha con lui, riguarda sicuramente l'origine, come il sessuale arriva a noi tutti, maschi e femmine, ed è il sessuale che arriva dalla madre. La signora K, che è il vero oggetto d'amore di Dora, il oggetto direi più che di amore, del desiderio di Dora, è colei che ha in tutti i sensi insegnato a Dora, dalla nomenclatura alla presenza dell'oggetto erotico e la possibilità di erotizzare la realtà che circondava. Il sintomo quindi che cos'è? Che cos'era per l'isterica, ma non solo, anche per l'ossessivo? I sintomi in generale cosa sono? Sono un tentativo parzialmente riuscito di opporsi al discorso del padrone, per dirla come Lacan. Quindi in qualche modo devono disordinare quello che è l'ordine dato, ma non disordinarlo tanto da non poter utilizzare quello stesso ordine, perché il sintomo parli di quell'ordine. Questa è la scommessa della psicoanalisi. La cura delle parole è esattamente quella cura che avviene attraverso un linguaggio che non è, che è necessariamente compromesso. Il linguaggio dell'analista, come tutto il linguaggio, è necessariamente compromesso con il padrone, ma ci sono dei resti che il linguaggio non può assorbire completamente e non può riordinare, che anche se non parlano, dicono qualcosa della opposizione che il soggetto oppone alla cancellazione della propria unicità, singolarità. Senza la produzione di un sintomo è praticamente impossibile cominciare un percorso analitico, perché non ci sarebbe alcuna possibilità per l'analista di comprendere come si può sviluppare il processo transferale. Il sintomo è esattamente quella formazione psicosomatica che cerca esattamente l'interlocutore per potersi decifrare, e questo interlocutore non è stato trovato nell'esperienza contingente della vita e viene cercato in un laboratorio relazionale. Allora, ci sono questi due elementi: uno, formazione dell'apparato psichico attraverso il discorso dell'altro, che è un discorso percorso dal desiderio dell'altro, il desiderio dell'altro e dell'altra, è il desiderio della madre. La madre viene definita portaparola, la portaparola porta tutti i processi di rappresentazione e anche di simbolizzazione. Quindi il problema della madre è un elemento che presiede o no la simbolizzazione, è nella realtà dei fatti che non esiste. Senza l'azione dell'io materno noi non potremmo mai simbolizzare in alcun modo, né ci basterebbe mai un padre per questo, ma neanche il padre potrebbe simbolizzare. Perché qui, perché li possiamo anche aprire, perché deve essere proprio la madre? Può essere un uomo al posto di una donna quello che ha questa funzione primaria della presa in carico e la presa in cura? Questo, se noi vogliamo astrarre in maniera assoluta quello che è l'immaginario sulla donna dal fatto che il corpo della donna è un corpo che può anche procreare, non vuol dire quindi che soltanto la procreatrice può entrare in questi processi di simbolizzazione, ma che sono sicuramente sullo sfondo dell'ordine simbolico, che questo è ciò che la madre e la donna portano la produzione concreta di un altro che deve diventare poi un altro psichico. Infatti tutte le tecniche di fecondazione extracorporea, extra madre, hanno esattamente la funzione di neutralizzare una parte consistente della differenza sessuale. Come il sessuale arriva a noi? Arriva attraverso l'adulto, l'altro adulto, direi senz'altro l'altro materno, che come dire, porta nei messaggi della cura, della cura tenera che porta ad un bambino, anche un desiderio che non è tutto decifrabile dal bambino, voglio dire che non può immediatamente tradursi in qualcosa che il bambino può utilizzare per sé e per la propria sopravvivenza. C'è chi dice, come Laplanche, mi sembra un'ipotesi da frequentare, che i resti di questi messaggi che arrivano dal materno all'infanz e che non sono decifrati sono quelli che vanno a formare l'inconscio. L'inconscio quindi è il luogo dove questi resti non tradotti, perché ciò che arriva da chi parla a chi non parla e che viene fatto proprio dal bambino ha bisogno di una traduzione in qualche modo da parte del bambino. È una traduzione prima somatica ma poi psicosomatica, diventa propria soltanto perché c'è questa traduzione. La parte intradotta di ciò che ci arriva va a formare un deposito nell'inconscio, sicché si arriva a dire che non è la parola interpretazione che designa l'atto analitico, ma la detraduzione di questi resti che sono rimasti intradotti. Questo, a mio parere, non coincide comunque con ciò che chiamiamo l'ess, che è più vasto e di cui fanno parte, per quanto possa sembrare paradossale, sia l'inconscio che l'io. E quindi potremmo dire qualcosa che ha più a che fare con l'aspetto filogenetico della nostra storia. il nostro appartenere a questa specie, l'appartenere anche senza saperlo, il doverlo trovare continuamente ritagliato e rappresentato dalla vicenda storica. Sicuramente l'esse è un'entità non è metastorica, ma non è astorica, ed è ciò che da sempre pone il problema delle origini allo psicoanalista, e qui arriviamo al padre. Da dove veniamo, qual è l'origine della vita, perché parliamo, perché non, la scimmia, una scimmia a un certo punto ha parlato invece che rimanere soltanto una scimmia, qual è l'origine del linguaggio. A questo ci sono svariate risposte, a mio parere continua ad esserci una sola risposta plausibile. Noi non possiamo che accettare la prima grande castrazione che c'è sulla conoscenza, ed è il motivo per cui noi parliamo e per cui siamo degli umani invece che solo degli animali, non lo conosceremo, lo ereditiamo senza sapere da dove esso viene. Ovviamente voi comprendete che le neuroscienze sono estremamente affascinanti da questo punto di vista, perché è come se dicessero che c'è una mappa nascosta nel nostro corpo che invece porta traccia di quel che è accaduto. Ma questo sappiamo che neanche i neuroscienziati credono che sia vero. Se per caso fosse vero, si tratterebbe soltanto di giungere finalmente ad una conclusione sulle origini dell'apparato psichico e della cosiddetta mente, e finalmente avremmo la risposta a tutto. Naturalmente non l'avremmo pienamente alla morte, ma potremmo chiamare la morte in un altro modo, quindi potremmo dire per esempio termine di quel ciclo biologico, e potremmo sistemare la partita. E non la sistemiamo perché? Perché, e qui mi riferisco per esempio uno dei primi grandi teorizzatori delle neuroscienze, che è Edelman, si è scoperto che è molto plastico il cervello di un bambino, e che l'ambiente, la funzione ambientale sul completamento che il cervello di un essere umano ha esattamente nel primo anno di vita, questa è anche la condizione della nostra prematurità, forma addirittura nuove vie neuronali a seconda delle relazioni che il piccolo intesse con l'ambiente. Quindi se è vero che le donne hanno messo a fondamento direi della storia umana fino al patto sociale la relazione, addirittura il corpo lo porta scritto dentro, inscritto dentro, che è così. Il punto molto problematico è perché questa, che sembra un'evidenza, ed è che noi nasciamo all'interno di una relazione, invece non sembra avere tutto questo credito. A partire da qui vorrei porre soltanto degli interrogativi sul padre. Il padre è inteso come agente della simbolizzazione, che favorisce la simbolizzazione, poiché si intromette fra, a questo punto dobbiamo dire, una madre natura e un bambino che ancora non ha uno psichico pienamente formato, il padre a cui Freud si riferisce è il padre della preistoria, è il padre che noi ereditiamo come necessità che fonda il linguaggio. Questo padre è andato in crisi già per Freud, anzi diciamo che è dalla crisi di questo padre che nasce probabilmente la necessità per Freud di interrogarsi su come funzioniamo verticalmente, appunto, su come c'è una parte di noi che non funziona secondo il patto sociale, le regole sociali stabilite, e anche se poi siamo appunto degli accumuli di sintomi. Quando Lacan scrive nel 38 I complessi familiari, mette in luce un elemento molto importante. ed è perché Freud ha bisogno della costruzione dell'Edipo, perché ha bisogno del mito di Edipo per giustificare la funzione paterna. Ne ha bisogno perché deve dare un'origine ad una funzione che non ha tanto senso nella contingenza, in quanto è una funzione che va lentamente deperendo dal punto di vista sociale. La famiglia nucleare borghese taglia completamente il padre fuori della vicenda di anni e anni nella formazione dell'essere umano, sia maschile che femminile, e quindi in qualche modo questo padre deve rientrare da qualche altra parte, diciamo che rientra dalla finestra, rientra da fuori, diventa molto rapidamente il nome del padre, si scorpora molto rapidamente da un corpo sessuato, non rappresenta più l'altro polo della differenza sessuale, è un terzo, fa tanto la funzione di terzo nella coppia, nella diade madre-bambino, che questo terzo può essere sostituito da chiunque, da qualsiasi cosa faccia questa funzione. Queste sono peraltro le teorizzazioni più recenti. L'altro è il padre cosiddetto storico, io vi vorrei dire il padre immaginario, è il padre la cui forma, la cui gestalt deve essere presente nella vita del bambino. È una persona in carne ed ossa, è la persona del padre. Questa persona del padre si scorpora lentamente dalla funzione del padre al punto che oggi vediamo una serie di nuove formazioni familiari in cui il padre in realtà è solo il figlio più grande della madre. In questo momento non mi interessa addentrarmi su quali sono naturalmente le ricadute culturali e sociali di queste, perché io credo che questo sia un fenomeno transitorio. Non gli assegnerei tutta l'importanza che viene assegnata, anche se naturalmente dal punto di vista fenomenologico attira molto la nostra attenzione quello che leggiamo sui giornali, quello che c'è intorno a noi, quello che ci raccontano le amiche, gli amici, quello che l'analista vede nella stanza d'analisi. Ciononostante, la cosa che l'analista vede di più oggi nella stanza d'analisi è esattamente la completa desessualizzazione della figura del padre. E che cosa intendo dire? Che alla domanda fatta anche ad alcuni colleghi, ma secondo voi la funzione del padre deve ancora poggiare su un uomo? La risposta è no. Allora, andiamo alla differenza sessuale. Qual è nella vicenda della specie, ma anche nella vicenda del sorgere della nostra vita psichica, la funzione dell'altro sesso e come facciamo a stabilire una differenza sessuale, differenza fra cosa e fra che, visto che l'innominabile, l'irrappresentabile vero oggi è l'uomo su cui non poggia più la funzione paterna, sì, lui è dell'ordine dell'irrappresentabile, mentre mi sembra assolutamente sempre più rappresentabile la funzione della madre, anche se resta secondo me come grande punto interrogativo, inquietante, proprio perché è direi la sessualità che continua a fare problema anche agli psicoanalisti, tanto più agli psicoanalisti intersoggettivisti, tanto più agli psicoanalisti neurocognitivisti e così via, che reputano che sia un vecchio armamentario quello della sessualità, della libido che prende corpo nella sessualità. E il problema è questo: come la funzione, la sessualità che la madre porta nel suo rapporto con il bambino e che porta nel mondo, come ha a che fare con il femminile della madre? Sono due funzioni distinte, sono due funzioni in conflitto, sono due funzioni che si integrano facilmente, ma il fatto è che questo femminile che posto ha in una vicenda nella quale non si sa più qual è il posto che ha il maschile, non c'è un eccesso che sta ricadendo sulle spalle della madre, che le fa ombra sicuramente e che la costringe molto spesso a colmare il buco, il vuoto che si è aperto nella rappresentazione del maschile. E non è questo che oggi si chiede in forma rovesciata alle donne, perché se un tempo dovevano rappresentare il polo della natura, oggi devono rappresentare il polo della ragione, del mentalizzabile, del rappresentabile, esattamente per sfuggire alla pazzia. Io credo che su questo dovremmo riflettere. Io non ho indicazioni molto positive da dare. Vi posso solo dire che ciò che si osserva nella stanza d'analisi è un'esplosione inquietante del bisogno di procreazione, separato dal padre storico, e che quindi conferma molto spesso il padre come puro nome del padre. La banca del seme non è altro che il supporto di qualcosa che è puro nome, è un nominalismo che sembra non avere più a che fare con la vicenda storica dell'incontro fra due desideri e quindi fra due differenze molto grandi. Queste sono le considerazioni che io ho prelevato dal vostro documento. Mi rendo conto che i due interventi prima di me sono stati molto più ampi, sono anche molto più innestati, come dire, in un orizzonte filosofico, ma io lavoro e tutto ciò che ricavo lo ricavo sempre e comunque dalla relazionalità e dalla relazione, perché questo è l'unico dispositivo di cui la psicoanalisi dispone. Se per caso abbandonasse questo dispositivo e passasse ad un'osservazione non soggettivata di un oggetto, per esempio se potessimo effettivamente guardare un cervello e da quello vedere che cosa succede alla nostra cosiddetta anima, io credo che la psicoanalisi non avrebbe più nessun motivo di esistere, perché non avrebbe lo strumento principale attraverso il quale rimette in causa, io direi, l'unico scopo che dovrebbe essere della relazione e comunque di ogni cultura e di ogni consesso umano, ed è permettere lo sviluppo della singolarità e della soggettività di ognuno restando in relazione con un insieme. Oggi di questo direi più che progetto, di questa necessità sono non solo edotte, ma sembrano sentirsi responsabili principalmente molte donne, anche se non tutte le donne. Ringraziamo Emanuele Raffaele per l'intervento, che credo sia sembrato a tutti molto interessante. Proponiamo, se tutti sono d'accordo, 5 minuti di pausa prima della relazione di Davide Carizzi e del dibattito. Bene. Sì, siamo pronti per ricominciare con alcune considerazioni di Davide Carizzi, insomma, credo sul nostro documento in generale, anche sullo svolgimento della discussione. Sì, io non mi ero preparato una relazione, ma non farò la mia relazione per diverse ragioni. Uno, perché forse era troppo lunga, e secondo perché non si sente? Si sente? Va bene. Va bene. L'ho messo. Va bene. Preferisco invece fare un intervento che durerà, credo, massimo 10 minuti. per avviare poi un dibattito che mi sembra più opportuno a questo punto. E vorrei fare proprio qualche commento sugli interventi precedenti, che mi sono sembrati tutti molto, molto interessanti, molto ricchi. E c'è De Caro? O è scappato De Caro? No, ma c'è comunque. De Caro c'è? Vabbè, parlo dopo con De Caro allora. Sì, a te. Ah, ecco, De Caro c'è, perfetto. No, volevo fare qualche commento perché l'ho trovata molto stimolante la tua presentazione di qualche problema per il quale anch'io ho un certo interesse. Quindi vado a elencare i punti salienti del tuo intervento e sottolineando quello che trovo problematico, cioè i punti che secondo me si presterebbero a essere interrogati o sui quali si potrebbe aprire una discussione. Poi fatta questa relazione su De Caro, invece voglio andare a toccare il punto dell'ordine simbolico. Invece di passare in rassegna i vari punti del vostro documento, vorrei tornare su questa questione dell'ordine simbolico. Abbiamo la fortuna di avere qui Luisa Muraro, quindi mi sembra anche un'occasione per poter avviare una discussione su questo tema così delicato. Per quanto riguarda la De Caro, le cose che diceva De Caro preziose. Primo punto, riduzionismo neuroscientifico dalle discutibili pretese di legittimità. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, tra l'altro quindi non c'è nemmeno bisogno di approfondire. Rimane aperta secondo me la domanda perché però questo tipo di approccio gode oggi di questa autorevolezza o di questa credibilità. Non so bene a che livello di analisi bisogna interrogare questo problema. Adesso cerco di precisare un po' meglio però quello che ho in mente io. Tutto è natura, cioè autorevolezza, credibilità delle scienze naturali come unica fonte di sapere legittimo, diciamo. Sia nel contesto accademico, prettamente scientifico, ma sia direi soprattutto nel contesto sociale, nella eco sociale che poi queste ricerche hanno, anche quotidianamente sui giornali, anche ricerche molto discutibili o anche ricerche presentate sui quotidiani in maniera completamente o parzialmente distorta. Ecco, tra le scienze naturali, secondo me, ce n'è una che gode di un particolare prestigio oggi, ed è la biologia. Tutto ciò che ha a che fare con questa scienza particolare, questa scienza naturale dallo statuto epistemologico molto complesso e articolato, questa scienza che i cui a priori o la cui nascita se non altro Foucault interroga in questo libro della metà degli anni 60, Le parole e le cose, non so se è un libro di filosofia che a te può dire qualcosa o ti dice qualcosa, ma comunque è un libro, lo sottolineo per questo, perché è un libro in cui Foucault programmaticamente tenta di elaborare un'archeologia delle scienze umane, giustamente, già nel sottotitolo. E stranamente, tra la linguistica, l'economia, finisce anche la biologia. Tra i saperi della modernità, secondo Foucault, i saperi che nascono, lui distingue chiaramente storia naturale dalla biologia, la biologia nasce soltanto all'inizio dell'Ottocento, fa tutto un discorsetto. E questo è il primo punto, cioè l'autorevolezza della biologia, perché l'autorevolezza della biologia, la credibilità del discorso biologico, dell'enunciato biologico. Poi ci sono altri punti che ho trovato molto interessanti. Freud era un positivista, non c'è dubbio, era un evoluzionista. E tu dici oggi la psicanalisi non è più freudiana in questo senso, secondo me in parte, ecco appunto. Ecco, io volevo aggiungere che in parte, perché in realtà ci sono delle tendenze più che latenti, patenti nella psicanalisi, soprattutto di orientamento di ambito americano. Faccio un nome su tutti, quello di Candelli. Sì. E qui ritorna il problema del riduzionismo neuroscientifico, ritornano anche i problemi in realtà interni alla ricerca freudiana, che è una ricerca che comunque nasce come sul terreno della neurologia del tempo e quindi dei rapporti tra neuroscienze e psicanalisi, che non sono secondo me facilmente risolvibili e non sono affatto risolti. Qui ritorna di nuovo il problema dell'inconscio cognitivo, come parzialmente simile e al tempo stesso profondamente dissimile dall'inconscio freudiano, le differenze tra i diversi inconsci, perché adesso poi ci arrivo. Il problema secondo me di questo tipo di incontri è che si usano parole, o ciascuno di noi usa le parole, ma questo forse è pedante dirlo, ma ciascuno di noi usa le parole, certe parole, attribuendo a queste parole un significato diverso. Per esempio l'inconscio freudiano non è l'inconscio lacaniano. E arrivo all'ultimo punto che ho trovato formidabile, cioè questa tua individuazione di questa sorta di paranoia naturalistica, questo essere agiti dalla natura, diciamo, questa la rinascita dell'emotivismo dentro un quadro di discussione riduzionistica, di nuovo, dei quadri morali a fenomeni evolutivi. Tutto questo ha una lunga storia che immediatamente comincia con Darwin, tra l'altro. Ma tutto questo mi fa ritornare al problema di questo naturalismo, no? Quando noi diciamo scienze naturali, o quando noi diciamo riduzionismo, anche riduzionismo neuroscientifico, è un riduzionismo che ha un, diciamo, un centro, un campo di gravità, che non è per esempio la fisica o l'astronomia, ma è questo frastagliato campo di enunciati che noi chiamiamo biologia. Quindi volevo giusto sottolineare questo punto, sul quale anche mi permetto di dire che ho provato a scrivere qualcosa in un libro che è appena uscito proprio sul concetto di vita. Sì, sì. La psicanalisi, tu dicevi concludendo, si situa, giustamente secondo me, si situa nello stacco tra la componente normativa del nostro comportamento e la superficie emotiva che noi ereditiamo filogeneticamente. Questo stacco, questo scollamento è quello che secondo me Lacan chiama semplicemente la storia. La storia come fenomeno umano che ci disloca in una dimensione non meramente naturale. Quando per esempio dice, e qui arrivo poi direttamente al punto dell'ordine simbolico, eccetera, quando dice che il principio della psicanalisi è il principio della storia, questa è una frase di Lacan, cioè la psicanalisi coglie, a differenza per esempio delle terapie cognitivo-comportamentali o di altri approcci all'essere umano a carattere anticlinico, psichiatria evolutiva e tanti altri, coglie l'essere umano come un essere storico, essenzialmente questo è il, secondo me, ciò che differenzia, se non altro in una prospettiva lacaniana, la psicanalisi da tutte le altre forme di approccio clinico alla soggettività umana. Ora, il problema della storia ci porta dritti alla domanda che faceva Ida, che è la domanda che ci facciamo secondo me un po' tutti, innanzitutto sui rapporti tra quello che Lacan chiama l'ordine simbolico e l'ordine, quello che potremmo chiamare l'ordine sociale o l'ordine, io preferirei dire, socio-normativo. O anche quello che Lacan chiama semplicemente la struttura. E poi, terzo termine, ancora ulteriore, il nome del padre. Cioè la riformulazione, la ridefinizione di tutto ciò che in Freud è pensato, secondo Lacan, in maniera mitologica, come complesso edipico, e che Lacan cerca, nella mia lettura ovviamente, non voglio pretendere di fare il sacerdote di Lacan, non lo so, ma nella lettura che do io di Lacan, il nome del padre nomina, è un nome, nomina una modalità di configurazione di quello che lui chiama la struttura, cioè bisogna distinguere secondo me in Lacan il livello della struttura, che ha a che fare per esempio con la triplice articolazione in immaginario, simbolico e reale, da una particolare configurazione di questa struttura che lui nomina come nome del padre. Ora, secondo me, l'ordine simbolico non è il nome del padre, per un verso, e non è l'ordine socio-normativo, cioè va distinto dall'ordine sociale, e fin qui credo che ci troviamo tutti d'accordo. Il punto in cui io non mi trovo d'accordo, o perlomeno in cui mi sento di insinuare qualche differenziazione tra la mia lettura di Lacan e le cose che sento qui, è che il nome del padre invece è una forma di identificazione dell'ordine simbolico a un certo ordine socio-normativo. Quindi è una forma di crisi dell'ordine simbolico. Il nome del padre, non c'è una crisi del nome del padre in realtà, è che il nome del padre è già in sé e per sé una crisi dell'ordine simbolico. Quindi l'ordine simbolico non è il nome del padre. Il nome del padre è una crisi dell'ordine simbolico. Ed è una crisi nel senso che riporta ciò che è puramente strutturale su un piano di, io direi, discutibilità o disponibilità sociale o socionormativa. Adesso non ho modo di provare a spiegare che cosa io intendo con questa articolazione. Provo invece a avvicinarmi allo stesso tema ricominciando in maniera pedante e didattica a ricordare come si struttura la soggettività umana secondo Lacan. C'è un primo piano, penso che più o meno lo sapete tutti, ma lo ricapitolo molto rapidamente. C'è un primo piano che è puramente immaginario ed è il piano che Lacan individua nello stadio dello specchio, cioè lui, lo stadio dello specchio diventa l'immagine dell'immaginario o la figura teorica più che l'episodio storico, destinata a esibire quella che è l'altalena immaginaria, cioè il punto di insorgenza di un'identità soggettiva che però è specularizzata e quindi è continuamente alienata. Questo processo, che secondo Lacan corrisponde anche a un punto di insorgenza della soggettività tra i 6 e i 18 mesi di età del bambino quando si guarda per la prima volta allo specchio, produce delle altalene di frustrazione e giubilazione in cui il soggetto si vede corpo, si vede unitario, si vede uno allo specchio, ma il mancato coordinamento in quella fase della crescita sensomotorio produce una discrasia tra questi due piani e una altalena o un'oscillazione di frustrazione e giubilazione. A seconda che il bambino si veda o si senta, diciamo, si veda tutto è uno, oppure si sente a corpo in frammenti. C'è dunque a questo livello un'altalena paranoica, perché è il cuore stesso paranoico della soggettività, secondo Lacan questo, un'altalena che si tratta di stabilizzare. Sul piano simbolico, che è il piano della parola, si produce per un verso lo stesso fenomeno, cioè un processo di specularizzazione, ma per frenare questa altalena che catturerebbe l'identità anche simbolica del soggetto dentro l'altalena immaginaria, Lacan ipotizza che ci sia quella che chiamerei una parola non appropriabile o un significante nonsensical, che è il punto di non senso attorno al quale ruota quello che lui chiama l'ordine simbolico. Questo punto è un punto in cui il soggetto non si può specularizzare e che, in cui dunque il soggetto si va a dislocare, ed è un punto di totale passività della soggettività. Questo che cosa significa? Significa che, per come leggo io Lacan, l'ordine simbolico, essendo un sinonimo di struttura, non si può toccare. L'ordine simbolico nomina o è una funzione teorica per descrivere la struttura della soggettività umana. Il reale, quello che Lacan chiama alla terza tappa il reale, è esattamente questo punto di non senso che si scava dentro l'ordine simbolico. Ora, il nome del padre, qui vado semplicemente per accenni, così, più per provare a aprire una discussione o provare a aprire un dibattito. Il nome del padre è una particolare configurazione dell'ordine simbolico che alla fine Lacan chiama anche la perversion negli anni 70 e di cui lui rintraccia secondo me la cifra più chiara nel cristianesimo, nella religione vera. Nome del padre è già un'espressione cristiana, nel nome del padre, si prega nel nome del padre. È un punto in cui questa tacca di indisponibilità di una parola inappropriabile che spartisce il campo simbolico dentro il quale si può dislocare una soggettività viene nominata e viene riportata a qualcosa di immaginario. È precisamente l'imago paterna, cioè l'imago paterna, il nome del padre, la crisi dell'ordine simbolico sono sinonimi, sono fenomeni tutti coestensivi. Allora, vengo adesso a una domanda. È vero che noi viviamo oggi in una evaporazione della figura paterna? Io ho dei forti dubbi, francamente, che noi viviamo oggi in una evaporazione della figura paterna. Basterebbe, credo, andare al cinema, per esempio, e vedere qualche film americano in cui in un film su due più o meno la questione paterna, l'immagine stessa di un padre domina la sceneggiatura dell'avventura che si sta dipanando. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me alla fine Lacan pensa che la crisi dell'ordine simbolico e la criticità del nome del padre con i suoi effetti fantasmatici o deliranti è qualcosa che noi ci portiamo dietro da molto lontano e che non è un dato del tutto recente o molto recente. Questo è un primo punto. Quindi, venendo alle cose che diceva Ida, cioè se fenomeni come il 68 per esempio o il movimento femminile, la differenza sessuale, eccetera, possono avere causato questa criticità, o possono avere contribuito, o possono avere avuto degli effetti. Io tenderei a vederlo al contrario, cioè tenderei a vederlo, nella prospettiva di Lacan, come questi degli effetti di crisi interna però a un certo ordine simbolico. Adesso poi vengo all'ultimo punto, anche questo è molto frammentario e probabilmente rimarrà anche enigmatico questo. Politica della psicanalisi o politica dell'inconscio, eccetera. Di nuovo, io mi limito semplicemente a ciò che Lacan, a mio avviso, sostiene. Lacan alla fine degli anni 60 elabora una teoria che si chiama teoria dei quattro discorsi. Il discorso in Lacan è una forma di legame sociale. Questa teoria dei quattro discorsi, questo insegnamento sui quattro discorsi, ovviamente è un insegnamento che tiene conto del dato dell'inconscio, dell'evento stesso della psicanalisi. Ora, uno dei quattro discorsi, cioè una delle quattro forme di legame sociale che Lacan promuove con questo insegnamento è la psicanalisi stessa. Quindi c'è in realtà in Lacan, dal mio punto di vista, una riflessione politica sull'oggi, sul contemporaneo, ma c'è anche la promozione diretta della psicanalisi, della pratica psicanalitica, come forma nuova di compensazione delle capillare applicata caso per caso alle singole soggettività, degli scompensi fantasmatici o deliranti che si producono in soggettività che si muovono dentro la crisi dell'ordine simbolico introdotta dal nome del padre. Ecco, mi fermo qui, spero di essere stato non troppo confuso. Ci sono domande, interventi, osservazioni. poco. Sì, è un tratto lungo, posso dare una risposta? Sì, sì, certo. Ecco, a meno che vado male, però io uno qua. No, no, no, no, prego. Solo, scusa. Funziona, se ce la fai, ecco. Davide ha fatto delle osservazioni sulla mia relazione, allora vorrei riprendere, anche se devo dire che sostanzialmente ero d'accordo. La prima era una richiesta di prognosi, il problema è che effettivamente c'è. Perché questo ritorno dello scientismo oggi nelle modalità un biologismo totalizzante? Naturalmente sullo sfondo del biologismo, almeno nella capoccia dei filosofi, spesso e volentieri c'è qualcosa di più radicale, anche più conosciuto, cioè l'idea che la biologia a sua volta si riduce alla chimica, che si riduce alla fisica, il vecchio fisicalismo c'è sullo sfondo. Comunque nelle modalità in cui si presenta questa concezione oggi normalmente significa esiste la realtà fisica, esiste la realtà biologica, dopo non entrano spesso in questi dettagli che però restano sullo sfondo. Perché? Secondo me per varie ragioni. Alla prima ho accennato in precedenza ed è in qualche modo comprensibile. Cioè è un bisogno di una fuga metafisicamente garantita dal dualismo cartesiano, dallo spiritualismo, da forme di irrazionalismo metafisico, e quindi la via più ovvia e più scontata, anche se erronea, è appunto riduciamo tutto quanto al naturale. Tutto ciò che eccede o è riducibile o è illusorio. Esattamente quello che si fa oggi, per esempio, su nozioni come coscienza. O la coscienza è riducibile a dati biologici o è un'illusione. Libero arbitrio, coscienza, responsabilità morale, su tutte queste concezioni sembra questo il terzo mandato, o è riducibile o è illusorio. E quindi c'è un bisogno di semplificazione in questo senso, è un caso specifico di un atteggiamento che c'è nella cultura in generale, semplifichiamo, correlato di questo, insofferenza per la complicatezza dei problemi. Questi problemi sono quelli della tradizione metafisica più profonda e non si risolvono con scorciatoie del tipo guardate questa bella neuroimmagine, eppure tuttavia sarebbe bello se lo fossero, e quindi c'è questo wishful thinking per cui questa è la via da perseguire. E poi c'era un ultimo punto che avevo segnato, no, sostanzialmente è così, no, questo viene dalle scienze cognitive ed è soltanto appunto per dire l'idea di come funzionano questi meccanismi. È stato fatto questo esperimento, è stato sottoposto sia a degli esperti sia a dei non esperti, comunque studenti universitari, una serie di paper scientifici. Alcuni erano di carattere vagamente biologico-neurologico, tra psicologia e neurologia diciamo, no? Bene, il contenuto era esattamente lo stesso, ma in metà di questi papers al contenuto erano aggiunte delle neuroimmagini del tutto irrilevanti, completamente irrilevanti. Bene, il giudizio degli studenti presi da facoltà di tutti i tipi, anche facoltà umanistiche, è che i papers in cui c'erano neuroimmagini erano più scientifici, più importanti, più veri, soltanto per la presenza feticistica di neuroimmagini. Tra l'altro, detto incidentalmente, ci sono degli studi molto importanti pubblicati adesso su riviste scientifiche, da un esempio il team dell'MIT, che dimostra che le neuroimmagini spesso e volentieri si basano su accorpamenti arbitrari, perché sono accorpamenti statistici di dati per colorare le immagini in un certo modo piuttosto che in un altro, cioè far corrispondere a certe zone cerebrali dei fenomeni psicologici. Spesso e volentieri ci sono proprio degli arbitri statistici alla base. Quindi sullo sfondo c'è anche questo vincolo, diciamo così, bias cognitivo. Noi siamo, te tutti, tendenzialmente, in questa fase naturalmente questa è culturale, non è biologico, tendiamo a privilegiare l'idea che c'è la scientificizzazione del sapere e quindi tutte le sue manifestazioni è preferibile alla complicatezza delle spiegazioni verbali. Ecco. Questo dicevo. Poi per quanto riguarda la psicanalisi assolutamente d'accordo, ci sono questi tentativi, alcuni molto interessanti, perché non bisogna poi opporsi alle scienze cognitive, di riconciliare psicanalisi, saperi umanistici in generale, proprio la psicanalisi e scienze cognitive. Alcuni di questi hanno connotati però un po' scientistici, sì, alcuni ispirati proprio da Campbell. Tuttavia un problema là c'è, io non dico che bisogna prendere per dato un'opposizione old fashioned, però non va neanche bene che l'idea che tutto si riduce a causalità neurofisiologica. Roberta. Sono qua. Beh, parli qua oppure... Però qua perché se non sento nulla. Allora, innanzitutto grazie per le relazioni che ho trovato molto interessanti. Sai che spento? Ah no, sentite? Sì, sì, sì, sì, sì. E abbiamo cominciato con la relazione di Descartes su diciamo un equivalente parlando dell'equivalenza delle reazioni rispetto al disgusto fisico e morale. E successivamente Ida Domignani ha ricordato l'intervento di Judith Butler nel 2008 parlando dei sensi e della loro costituzione attraverso il dialogo tra mente e corpo, e anche Manuela Freire ha parlato dei segni che il corpo porta delle relazioni che le donne hanno messo in politica. Quello che mi domando è se questa implicazione dei sensi a livello, o questa comunque similitudine dei sensi rispetto alla morale, abbia un riscontro anche in ambito politico. Non so, penso sicuramente il senso del tatto rispetto al rapporto prima di tutto della madre con il figlio o la figlia, ma anche nei rapporti politici in generale, però se anche gli altri quattro sensi abbiano un riscontro, se ci sono degli studi, questo. Grazie. Posso dire qualcosa, forse anche Ida poi dopo? Posso rispondere subito? Sì, sì. Può... Ah, scusa, con questo dicevi, giustamente. Altre domande? Okay. E lui se ne deve andare, è inquieto, perché se deve andare via. Allora, prendiamo altre domande, non so chi vuole... C'è Federica. Interviene lei. No, probabilmente sarà anche un'osservazione abbastanza banale, però ascoltando le relazioni di Ida Domignani e Manuela Freire, mi sembrava che in un certo senso la crisi dell'ordine simbolico aprisse da una parte a una possibilità di un nuovo patto sociale stabilito sulle relazioni, quindi non sul sacrificio, però dall'altra parte mi sembrava che in un certo senso venisse messa in luce come in realtà poi cadeva sulle spalle della donna e della madre il compito di colmare il vuoto che veniva lasciato dal figlio e dal padre. Quindi ecco, non sapevo come districarmi all'interno di queste due posizioni. Crea un'ulteriore oppressione la crisi dell'ordine simbolico o no? Chi? Ah, Davide. Io avrei un paio di questioni. Una che rivolgo direttamente magari alla dottoressa Manuela Freire. Che mi è parso che dalla sua relazione sì, avete ragione, perché non ho è corto il filo, diciamo così, ne stava in una, aspetta, qua siamo tutti troppo, sì, penso che parlare. Scusate, no, mi è parso dalla sua relazione, cioè nel senso l'impressione che ho avuto, la domanda che mi è venuta subito in mente, qual è il futuro dell'uomo? Cioè, sono d'accordo su molte cose, sono d'accordo per esempio sulla relazione dialica, no, tra donna e bambino, e su una sorta di terzietà della figura maschile. Sono d'accordo sul fatto che molto, no, dell'esperienza umana passi da questo rapporto bambino-madre. E sono d'accordo sul fatto che aspetti della sessualità sono fondamentali, no? per la costruzione delle più diverse e disparate esperienze dell'uomo, insomma anche la sua percezione, insomma, eccetera. Però ecco, a questo punto veramente mi chiedo che fine facciamo noi uomini. E mi chiedo, sì, fondamentalmente... Sì, non ci sente. Non ci sente? No, mi chiedo se... la pongo adesso così, se in un certo qual modo il separatismo, perdonatemi se commetto degli errori in caso, il separatismo del femminismo del 70, che ha permesso la costruzione dell'identità femminile attraverso una pratica di autocoscienza, ok, se oggi nel 2010, voglio sapere cosa pensate, ecco, se oggi bisogna da parte maschile fare, attuare un separatismo maschile, o se è già possibile unirci uomo-donna e parlare insieme di qualcosa? Questa è una questione. Una seconda questione, cerco di essere breve, è rivolta direttamente a Tarizzo. Io non conosco bene la CAN, in questo caso, mi dispiace. Però insomma abbiamo avuto modo di parlare con Roberto Verlani, per capire più o meno cos'è l'ordine simbolico. Una cosa che mi pare per me quasi impossibile, il fatto di avere, allora, l'ordine simbolico è una struttura immutabile per la CAN, no? Abbiamo detto. E mi è parso che Davide l'ha giustificato dicendo che c'è un significante che è scollato dal significato, cioè un significante che sta lì non ha un senso, cioè senza senso, una parola senza senso, per cui è immutabile. Ora, per me un significante non può essere scollato dal significato, nel senso non la vedo così, quindi vorrei capire se riesce a spiegarmelo meglio, fondamentalmente. E poi vabbè, non credo che sia sufficiente andare al cinema per capire, perdonami, vabbè, però per capire l'elaborazione della figura maschile, nel senso che basta, non lo so, anche rapportarsi con la generazione odierna, vedere come le strutture sociali della nostra generazione mutano, si stanno trasformando, vedere insomma come i miei coetanei uomini si rapportano con la donna stessa e via discorrendo, nel senso che, non lo so, ho un po' di dubbi sul fatto che non ci sia la protezione della figura maschile. L'ultima cosa, chiudo e non prendo più parola per oggi, è il professor Mario De Caro. Noi con il professor Mario De Caro abbiamo fatto una lezione insieme alla professoressa Zaganelli nel tentativo di, come dire, trovare dei punti di incontro tra una scienza umana nata da poco, da 12 anni, un po' di più, della semiotica, no? Cercare di capire in che modo questa potesse collegarsi, no, alle scienze cognitive. Quindi io azzardo veramente come ho fatto finora, e come possa essere naturalizzato un po', no, il modello semiotico di analisi delle strutture. Okay. Però mi chiedo, oggi sentendo di nuovo Mario De Carlo, non è la prima volta che lo ascolto, quale verità allora c'è nelle scienze cognitive, se c'è una verità, e se non c'è, in che modo può essere criticato? Ecco, su questo ancora ho un po' di dubbi, vorrei un po' praticamente, scusate. Grazie. Se ci sono altre intervenzioni direi di... Sì, professor Birra, cittadino. La forza e anche, diciamo, il valore terapeutico del naturalismo e perfino dell'illusionismo degli ultimi anni sta nell'insofferenza per quella pappa del cuore che era diventata l'ermeneutica urbanizzata di Gadamer, quella schifezza assoluta reazionaria, ideologia del capitalismo contemporaneo che era il pensiero debole. E quindi voglio dire, c'è un aspetto reattivo dicendo, bene, se le cose stanno così, torniamo ad alcuni punti di forza di quella che è la condizione umana. Naturalmente, parlare di natura umana senza dar conto della storicità di questa forma di vita biologica, frutto della filogenesi, senza dar conto della storicità, vuol dire esattamente mancare la natura, non tanto mancare la storia, quindi perdere la partita che si era ingaggiata in quanto naturalisti, parlare d'altro. L'altro motivo per cui il paradigma naturalista, nel senso di scienze cognitive, perché il naturalismo è una cosa seria, se si riuscisse a parlare sul serio di storia naturale, a proposito dell'intreccio tra pulsione e linguaggio, beh, saremmo un passo più avanti forse anche dal punto di vista del pensiero politico. E dico, dal punto di vista delle scienze cognitive, è un eco, con tutta la sua pretesa di metastoricità, come al solito è un eco di una congiuntura storica determinata. Quali sono le condizioni extrafilosofiche che giustificano il riduzionismo delle scienze cognitive? Che poi non è tanto il riduzionismo, magari fossero riduzioniste, è una moltiplicazione di enti inutili, fra le pulsioni e il linguaggio, tutto un mondo mentale che si è moltiplicato e proliferato per la metastasi. Comunque, il motivo storico effettivo è il fatto che alcuni elementi di fondo della specie umana sono diventati la principale risorsa economica, cosa che non era vera prima. Il linguaggio, i processi cognitivi, alcune delle cose che si discutevano, la relazione con il mondo, il carattere intrinsecamente relazionale della prassi e del pensiero umano, alcune delle cose che si discutevano nella prima giornata. Quindi un motivo esterno e un motivo interno. Su un Mario, sul cittadino De Caro, argomenta: la morale si distacca dal comportamento fisiologico, quello che era una reazione di disgusto al tempo stesso sensoriale e morale. Questo è giusto, lo trovo illuminante, se si dà conto di più di quanto potesse fare Mario stamattina di come avviene questo distacco e di quali sono le sue conseguenze. Se al posto di morale intendiamo intelletto discorsivo, beh, il distacco dal dato fisiologico non ha sempre un valore morale, curiosamente. Basti pensare alla dialettica fra l'empatia garantita dai neuroni mirror e la possibilità dell'intelletto discorsivo di dichiarare questo arabo, Oriana Fallaci, o questo ebreo, un tenente nazista, non è un uomo. Che paradossalmente questo distacco dal fisiologico, se si intende per fisiologico l'empatia neurale, Poi, guardate, la cosa buona di Winnicott, che io considero in larga misura il vero, per quello che ne so e per i miei interessi filosofici, la vera apertura della psicoanalisi, della tradizione psicoanalitica sulla storia e in qualche misura perfino sulla politica, l'idea sua è che non è che c'è un polo e un altro polo e poi una formazione mediana, ma che quello che chiamiamo tardivamente formazione mediana, lui lo chiama fenomeno transizionale, è ciò che viene per primo e rende possibile poi la formazione del polo A e del polo B. Quindi non è che c'è una sorta di punto di incontro fra natura e storia, ma vi è immediatamente un punto di distinzione fra interno ed esterno, sé e mondo, e quello viene chiamato transizionale. Che cos'è questo transizionale? Che non è né naturale storico, né storico, ma che permette poi la distinzione tra naturale e storico. Beh, questo oggetto transizionale per eccellenza, che né interno né esterno, né natura né storia, ovviamente sbagliato definirlo in negativo, ma che permette la distinzione fra natura e storia, fra interno e esterno, e il linguaggio umano. Mi consigliano di cominciare a far rispondere, che non è male, se no Lorenzo, non so, avete già qualcosa? Penso di sì, da dire. E ho avuto tre domande. Io preferisco rispondere domanda per domanda perché ho una memoria a breve termine che ha delle lacune. Adesso mi devo ricordare la prima, il Pulitzer, esatto. La domanda di sua era: il ruolo della sensorialità nei rapporti politici. Naturalmente questo è tema classico. Quello che so è che ci sono degli studi neuroscientifici o cognitivi che accentano questo ruolo, però purtroppo, appunto, dicevo, e questa è una tendenza tipica. Dal piano strettamente sensoriale, cognitivo, percettivo, si va facilmente al piano neuronale, come se fosse automatico il passaggio, tant'è che c'è una disciplina che si chiama neuropolitica, che incombe su di noi e che ha pretese piuttosto minacciose, nel senso che secondo loro, per esempio, ci sono delle differenze neurali, tipo questo italiano, come si chiama? Ci sono delle differenze neurologiche tra chi ha una mentalità più progressista e chi ce l'ha più conservatrice. E non questa differenza fisiologica come la causa dei comportamenti. Magari c'è la differenza fisiologica, però non vedo perché non dovrebbe essere l'effetto di una situazione culturale in cui uno si trova. Quindi però c'è un'accentuazione di questi studi. Questo si collega alla domanda di Pulizzotto, cioè che c'è di buono, cosa c'è nelle scienze cognitive? Beh, sarebbe come dire che c'è di buono nella sociologia, c'è il buono, c'è il non buono, è un paradigma fortissimo, ha delle cose interessantissime e importantissime. su molti aspetti, conosciamo noi stessi e i nostri limiti molto meglio. Quello che trovo un po' minaccioso è il fatto che, siccome appunto è un paradigma molto che va molto forte, anche molte frecce nel suo arco, spesso si tende a diventare la pretesa di esaustività. Questo mi pare il problema, come se dando una spiegazione cognitiva, per esempio, dei fenomeni culturali, si possa ambire a avere una spiegazione che dia conto di tutto, che sia esaustiva. Io questo non lo credo, credo che ci sia bisogno di una pluralità di risorse epistemiche rispetto ai fenomeni culturali in particolare. L'ultima domanda che mi ha fatta, dalla faccia me la ricordo. Chi ha fatto la domanda? Si è andato? Lui. No. No, no, non ho già risposto, lui è il penultimo. L'ultimo è Virno. Ah, Virno, sì. Paolo, Paolo è stato là, il citoyen. Citoyen sono d'accordo? No, citoyen. Paolo ha dato un esempio che secondo me è interessante, però conferma esattamente quello che stavo dicendo, cioè la predisposizione che probabilmente empatica, probabilmente dei neuroni specchio, sebbene ci sta una polemica adesso e secondo alcuni non ci sono i neuroni specchio negli esseri umani, comunque mettiamo che ci siano, ci saranno senz'altro dei meccanismi fisiologici che sottendono l'empatia e una naturale tendenza altruistica che pare esserci. Poi arriva appunto Lauriana Fallaci e dimostra un'intolleranza totale, quello è senz'altro una mediazione culturale normativa, certo, appunto, non è detto che la normatività che arriva a giudicare degli istinti o degli atteggiamenti che derivano dalle passioni, dalle percezioni, sia necessariamente buona. È semplicemente un piano in cui noi giudichiamo del dover essere. Lei giudicava molto male, però tuttavia, senz'altro hai ragione tu, lei aveva un atteggiamento culturale, di rifiuto totale di un certo ambito che non le piaceva, e quello appunto era un modo di mettere da parte, e ignorandoli completamente, cosa che non è affatto in seguito a quello che ho detto, certe tendenze invece empatiche verso tutti gli esseri umani. Quindi conferma quello che dicevo io, la normatività è un piano che appunto incorpora, rielabora tendenze che ci sono e che sono fisiologiche. Mamma, rispondo io. Io non ho capito che domanda mi è stata fatta, a parte che puoi dire qualcosa su quello, allora, che ha detto Paolo sullo spazio transizionale, sì? E sulla crisi dell'ordine simbolico. Dunque, rispondo prima a Davide alle sue obiezioni che io trovo pertinenti e probabilmente lui ha ragione, lui è un lettore di Lacan molto più attento di quanto non sia io. E infatti non mi dedico, diciamo, alla lettura di Lacan in prima istanza. A me questa faccenda della crisi dell'ordine, del rapporto tra ordine simbolico e ordine socio-normativo, come l'hai definita tu, che mi sembra una buona definizione, che accolgo, interessa, diciamo, per ragioni politiche, certo. Non per restare alla lettera di Lacan. Adesso su questo io mi sono spiegata male, io volevo dire l'opposto di un rapporto di causa-effetto tra il 68 e oppure tra qualunque altro momento storico è. L'ho detto prima di parlare del 68, ho detto che credo che il rapporto non vada pensato in termini di derivazione o di automatismo. Quindi dal mio punto di vista l'obiezione che tu fai, intanto in parte l'accolgo e cioè, so perfettamente che la crisi è precedente, non bisognerei mai di datarla né al 68 né ad altri momenti. Io ho detto a un certo punto che sono aperta, diciamo, alla possibilità che ci sia un rapporto tra storicità e ordine simbolico, che però non va letta in termini storicisti, non mi sognerei mai di dire che c'è un momento in cui l'ordine simbolico va in crisi, forse ce ne sono tanti, ci sono appunto delle aperture, chiamiamole così, delle crepe che si manifestano in certi momenti storici e per quella che è la mia ipotesi e non solo mia, in rapporto appunto a dei movimenti dell'ordine socio-normativo. Cosa voglio dire con questo? Che Se anche le cose, stando alla lettera di Lacan, come tu la leggi, stanno nei termini che tu hai detto, quanto al rapporto tra ordine simbolico e nome del padre, e se quindi, come tu dici, il 68 è un momento in cui questa crisi interna si manifesta e non in cui essa viene prodotta, dal mio punto di vista cambia relativamente poco, perché a me quello che interessa non è di addentrarmi in questa diatriba se venga prima l'uovo dell'ordine socio-normativo o la gallina dell'ordine simbolico, problema che tra l'altro non sarei in grado di risolvere. Mi interessa piuttosto che alcune congiunture storiche particolarmente dense siano leggibili, siano pensabili in questa chiave di una rottura che non attiene solo al piano storico contingente, ma anche a ciò che decide la pensabilità della nostra esperienza, le categorie con cui la pensiamo e con cui anche pensiamo la formazione della soggettività individuale e politica. E questo non è di tutte le congiunture storiche, è solo di alcune congiunture storiche, particolarmente per l'appunto dense. Insomma, per dire, Virginia Woolf parlava di crisi dell'ordine paterno nel 37, insomma, no? Certamente ne possiamo trovare molte altre. Però se intendiamo, come io ho inteso, e l'ho specificato questo, che con il termine crisi del padre o declino del padre o quello che vogliamo, si intende una crisi della forma della legge, io penso, Davide, che questa ci sia oggi. Cioè, certo che poi se vai al cinema trovi tutte le figure paterne che vuoi, ma per l'appunto io non proponevo un discorso psicologico sulla crisi del padre. Appunto. Perciò mostrano padri. Ma invece a me pare indubitabile che ci sia una crisi della forma di della legge, sia sul piano sociale, sia sul piano della soggettività individuale, di come il dispositivo della legge funziona, sia sul piano sociale, sia sul piano individuale. Mi interessa anche molto porre l'esempio, diciamo, il caso 68, perché è molto interessante che tuttora quella congiuntura possa essere interpretata o come generatrice di caos in chi questo discorso della crisi del padre lo porta alle estreme conseguenze della disgregazione, perversione, eccetera, come invece apertura di una liberazione rizomatica, chiamiamola così, oppure come insomma io faccio con altre, insieme ad altre, come ridislocazione della figura ordinatrice, della funzione ordinatrice, insomma, da questo paterno fisso a quello che ho tentato di dire quando ho parlato di ordine della madre, anche questa espressione da mettere tra virgolette. Su questo voglio dire qualcosa alla ragazza che ha chiesto, forse più a Manuela che a me, ma dico qualcosa anch'io, se la relazione possa essere a sua volta generatrice di oppressione, no? Ma penso fosse lei. Scusami, vi ho confuso, sì, eri te. Allora, la relazione secondo me ha uno statuto molto incerto, cioè lo statuto teorico della relazione va precisato ed è incerto, prima di tutto perché si mescola oggi molto equivocamente, secondo me, a cose che le assomigliano ma che non sono quella cosa lì. Per esempio, io dico sempre che relazione non è uguale a connessione, no? E che quindi anche quando si parla e per quanto mi riguarda, diciamo, c'è una somiglianza ma non proprio una identità tra quello che il femminismo ha elaborato come categoria della relazione è ciò che oggi viene definita la forma relazionale del post-fordismo. Io non credo affatto che siano la stessa cosa, eh. Il problema, insomma, certo, non è un caso che siano categorie che vengono fuori contemporaneamente, però insomma la relazione come categoria che proviene in qualche maniera dalla forma del rapporto con la madre, una relazione incarnata, in presenza, non smaterializzata, mentre oggi ci troviamo di fronte spesso invece a una elegia, diciamo, della relazione smaterializzata, con la quale io non, insomma, non sono d'accordo. Quindi la parola relazione certamente configura un passaggio da un certo ordine a un altro. Io dico da un ordine sacrificale a un ordine della relazione, e anche da un ordine metaforico a un ordine metonimico. Si può dire in tanti modi questa cosa, però non è una parola magica risolutiva, secondo me. Ecco, bisogna precisare lo statuto della relazione. L'implicazione dei sensi rispetto alla morale si ha riscontro noi in ambito politico moltissimo. Faccio un esempio molto terra terra: quando Berlusconi dice, negli stessi giorni in cui sta mandando via gli immigrati da Lampedusa, che i, com'era la sua frase, sì, che gli esponenti dell'opposizione, a differenza delle veline, sono maleodoranti, quello è esattamente un modo discorsivo per arrivare alla sensorialità e produrla discorsivamente, cioè per indurre il labbro che si alza di repulsione, che non è affatto un istinto naturale, può essere indotto anche discorsivamente, per indurlo nei confronti degli esponenti dell'opposizione. E siccome noi funzioniamo anche per associazioni metonimiche, già che ci siamo, anche nei confronti degli immigrati. Questo è solo un esempio. Per esempio Butler, quando è venuta qui, ha fatto un esempio, come esempio, un'analisi abbastanza ampia e articolata di come il discorso sulla guerra degli Stati Uniti del dopo 11 settembre fosse per l'appunto pieno di elementi che toccavano la sensorialità dei destinatari, direttamente la sensorialità, cioè era una forma di ricerca del consenso, detto in altri termini, che non passava solo per un piano razionale, ma per un piano addirittura sensoriale. Il separatismo degli anni 70 oggi chiama un separatismo maschile, o è possibile finalmente parlarci insieme? Qui Vale, io ti ringrazio molto per questa domanda, perché tanto, diciamo, sottostai inespressa a moltissime situazioni. Anche qui io non vedrei le cose nei termini di un prima e di un poi. Cioè non è che c'è stato il separatismo degli anni 70, allora adesso dopo tot anni siamo pronti invece a un nuovo incontro. Intanto la separazione, giustamente Lia Cigarini dice sempre la separazione, non il separatismo, il separatismo è un'ideologia, la separazione è stato un gesto. Allora la separazione femminile dagli uomini intanto è un gesto che si ripete ancora adesso, no? Non è più un'ideologia, però quando serve noi lo ripetiamo, no? Lo ripetiamo fattualmente, oppure lo ripetiamo nel discorso, oppure lo ripetiamo. Capisci? Cioè è una pratica che tuttora intanto è molto interiorizzata come dispositivo mentale, proprio la separazione dal discorso maschile, e poi è una pratica che ha tuttora le sue ragioni. E naturalmente questo devono dirlo un po' gli uomini, se c'è bisogno di una pratica simmetrica da parte loro, potrebbe benissimo esserci bisogno invece di un'altra cosa che io non so. E così come io sponsorizzo sempre la relazione tra uomini e donne, tanto più dopo la rottura femminista, ma naturalmente deve essere una relazione, non la conferma, diciamo, chiudiamo con Lacan, che tra uomini e donne, tra uomo e donna non c'è il rapporto sessuale, perché se invece è la conferma di quello, ovviamente è scoraggiante per tutti. No. Sì, certo. Ma penso che lui lo sa. Cioè... Non ho individuato bene le domande che mi sono state poste, però sono state poste delle domande, io non do risposte, però vorrei commentare due o tre cose. Una è, a proposito della crisi dell'ordine simbolico legata alla crisi della figura paterna, ve la metto nei miei termini, paradossalmente il nome del padre non è un significante, è un significato dell'ordine simbolico, quindi può benissimo andare in crisi. Questo non vuol dire che è in crisi la possibilità di nuovo di formare quel significante che appunto è sganciato dal senso immediato. Questo non vuol dire che non ha a che fare con l'esperienza, vuol dire che l'esperienza è quella di formare quel significante, quella è l'esperienza propriamente umana. Prima di quello è un'esperienza senza nome e quindi non so se la potremmo chiamare così, chi la racconterebbe. È una semplificazione, ma questo è il modo come io lo sento, questo è poi il significato del linguaggio, anche in Lacan, che non vuol dire che si parla e basta, è esattamente ciò che si riesce a formare intorno a quel ritaglio che mai entra nel linguaggio, che è quello che lui chiama irreale. E che di volta in volta è il corpo, o è la morte, o è qualcosa di questo genere per ognuno di noi. La verità è che non è, tutta la nostra esperienza non entra tutta nel linguaggio, e tuttavia intanto sappiamo questo in quanto c'è il linguaggio, quindi in quanto c'è il buco che si forma nel linguaggio. Quindi è sempre per paradosso che comprendiamo qualcosa di più, no? A proposito della nuova oppressione, parlai, ma ci forma una nuova oppressione, ma a me sembra che più che una nuova oppressione, qua si tratta di una nuova responsabilità che viene socialmente in questo momento accollata alle donne, di ristabilire qual è il patto umano e sociale che regola le relazioni e che non diventino relazioni di pura sopraffazione dell'uno sull'altro. Ora, in quanto le donne sono portatrici dell'esperienza della relazione primaria nella quale la sopraffazione è necessaria e si tratta di fare un passo indietro rispetto a quella necessità, quando il soggetto bambino diventa un soggetto, quindi è in grado di smarcarsi e di dire con il linguaggio che ho preso dalla madre dico no alla madre, quindi in qualche momento è questo, mi sembra che questa funzione fondamentale del farsi della soggettività non possa essere svolta soltanto dalle donne, non perché non sono in grado, perché non capisco qual è il dispositivo attraverso il quale noi immaginiamo la differenza e i processi di differenziazione. Questo è quel che io credo, ma il fatto è che ce la dovremmo cavare invece in assenza di quella che secondo me è effettivamente una evanescenza della figura paterna. Su questo, Davide, non sono, mentre comprendo, credo di capire quel che tu dici, quando di questa evanescenza si parla a proposito appunto del nome del padre, quindi di quella evanescenza lì, il nome del padre secondo me è abbastanza recente, immagino, non c'è da sempre, non è ancorato alla natura in qualche modo, però è un fatto che in questo momento non fa più neanche da significante temporaneo, quindi è un problema serio, o se lo fa non si capisce come questo significante continui a rappresentare però la condizione umana di relazione all'altro, e questo è quello che mi fa problema, è la relazione all'altro che il nome del padre finisce per non simbolizzare più, mentre per Lacan è fondamentale esattamente questo, noi nasciamo dentro la relazione all'altro. In questo senso, Paolo, Vino, tu parli certo dello spazio transizionale di Winnicott, ma questo spazio transizionale è, potremmo dire, il terzo di Winnicott. Allora, mi viene in mente, sì, il terzo e quindi anche lui. C'è un punto interrogativo per me su Winnicott, che pure io reputo sicuramente uno dei miei punti di riferimento, ma dov'è che mi metto in difficoltà? Esattamente per via del lavoro fatto anche sulla psicoanalisi come donna. Winnicott parla di fatto di un rapporto ipnotico che c'è fra madre e bambino, tanto è vero che allo specchio di Lacan lui pone parallelamente cosa vede un bambino nel volto della madre. Questo a me sembra un punto che, mentre ha molto aiutato schiere di terapeuti, praticamente, pragmaticamente, non li ha portato fuori dalla stanza dell'analisi, non ha portato fuori dalla stanza dell'analisi l'analizzante, il cosiddetto paziente, per un motivo: che questo cercare continuamente nel due, anche se all'interno c'è uno spazio transizionale, ma come dire, il proprio rispecchiamento, la possibilità di rispecchiamento, a mio parere evita in qualche modo il problema grande della castrazione e della perdita. Non che quindi molto questo l'abbia ovviamente non l'abbia pensato, ma forse era un così grande terapeuta che, diciamo, sapeva di doverlo guardare con la coda dell'occhio, ma di non doverlo tenere troppo presente, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Ora, io credo che per via esattamente dell'intreccio che c'è tra il pensiero delle donne e la psicoanalisi, penso che noi possiamo immaginare nuovi modi di affrontare come dire, il superamento del rapporto ipnotico, ossia del rispecchiamento dell'uno all'altro. Questo testo dello specchio di Lacan non è il padre, per me è sicuramente l'insieme a cui apparteniamo. Nello specchio concavo di Lacan si riflette il soggetto, ma anche l'insieme che gli sta alle spalle. È quindi qualcosa che ha sicuramente a che fare con il modo di intendere la politica, di intendere la nostra partecipazione alla collettività e alla gruppalità. Quindi in questo senso, mentre sicuramente io trovo che Winnicott ha superato delle grandissime impasse della psicoanalisi di Freud, non ha superato Freud ma della psicoanalisi di Freud, a me francamente non sembra che sia veramente giunto dove è giunto Lacan con lo specchio, ovvero con la funzione che ha il riflesso di una coppia dentro una terza coppia. E questo per me resta un punto molto molto importante. Nello specchio sia di Winnicott che di Lacan si dovrebbero riflettere madre e bambino, è il terzo che c'è tra loro. Altra cosa, ma questo terzo che si dice che sia il padre, ma come mai non è più il bambino? Mi sono sempre chiesta come mai abbiamo stabilito che è il padre il terzo, ma chi l'ha detto che il terzo non sia la madre, per esempio? Cioè, questa funzione di terzo, chi ha detto che sia così letteralmente ancorata ad una figura che, proprio per via di questo ancoraggio, deve diventare completamente evanescente in qualche modo, perché sennò non riesce più a fare la funzione simbolizzante? Io rivedrei proprio la struttura della famiglia, e direi della famiglia nucleare, è la famiglia a cui sicuramente si comincia a riferire Freud con grande spavento, che Lacan in più, diciamo, baldanzosamente decide che ci si possono fare i conti perché la tomba di Edipo è vuota, ma in realtà noi i conti con questo non ce l'abbiamo fatti, e secondo me il conto che non abbiamo fatto ricade assolutamente sulle spalle delle donne. Questo non avrei tanti dubbi, anche per esperienza personale, professionale, politica. Si può dialogare tra uomini e donne? Perché che stiamo facendo? Ma voi dialogate? Perché siccome fate molte domande io non capisco, invece il dialogo deve essere pure la forza di opporsi qualche modo, di essere impopolare in questa posizione. Cioè, senza, io mi rendo conto che in questo momento l'autorevolezza del pensiero femminile non rende così facile a un uomo opporsi, se non collocandosi in una posizione di guerra assoluta. Mentre io parlo del dialogo, perciò parlo di qualche cosa che, per esempio, per me è avvenuto sicuramente nell'autocoscienza, quando mi sono trovata a dover non opporre, ma differenziare da un pensiero di un'altra donna. Ecco, io penso che questa sia un'esperienza che a voi manca, fra voi e con noi. A questo punto direi che siamo spinti anche abbastanza oltre quello che Vabbè, ci sarebbe Lorenzo che... Vabbè, là, si potrebbe chiudere con delle osservazioni finali. Sì, sì, ma del... ti rispondo solo. Ah, no. O vuoi chiudere tu? No, no. No, volevo giusto dire, rispondere alla domanda che mi è stata fatta da lui. Il significante senza significato? Sì, è un significante assente in effetti, è il fallo. E questo fallo, cioè questo significato significante assente... Ah, non senti, scusa. No, non ho capito proprio. Senti così? Tu dicevi, non conosco, non ho mai visto un significante senza significato, giusto? E questo significante senza significato, in effetti, è un significante assente, è il fallo. Il fallo che però rientra dentro una geometria particolare, perché il fallo comunque si scrive in quello che Lacan chiama l'inconscio come lettera, e quindi come sintomo. Se vuoi, il sintomo potrebbe essere una cifra di questo significante non sensico, di questa cosa che non fa senso. Quando questa cosa non fa senso e irrompe nella tua vita, c'entra secondo Lacan qualcosa che ha a che fare col fallo, con la castrazione simbolica, eccetera. Quindi col nome del padre. Ora, ha importanza, secondo me, al contrario di quello che dici tu, Ida, sapere se viene prima l'uovo o la gallina. Ha importanza perché? Perché qui non è un problema di sapere cosa viene prima, è il problema di sapere se c'è un fuori, o se c'è una soglia, o se c'è la possibilità di, come dire, agire sulla crisi per uscirne fuori da qualche altra parte. Allora, di nuovo, per me ovviamente non è un problema di Lacan era un pensatore reazionario, tra l'altro, quindi lungi da me l'idea di voler riproporre Lacan. Facevo soltanto alcune puntualizzazioni sull'uso dei termini, perché si tratta di capirsi, quindi di... dopodiché si può tranquillamente, secondo me, anche, non dico rifiutare in toto Lacan, ma mettere in discussione alcuni enunciati lacaniani, sapendo che si sta facendo questo. E infine volevo dire solo una parola su questa cosa che vedo che ha suscitato una certa reazione, cioè questa comparsa dei papà al cinema. Per esempio nel cinema infantile, io ho due bambini piccoli, per cui per qualche anno mi sono sorbito cartoni animati e produzione cinematografica per bambini a bizzeffe, dove effettivamente c'è una funzione pedagogica ed è molto interessante. C'è pochissima letteratura, che io sappia, ho fatto un po' di ricerche, su questo tipo di... Ora, la presenza della figura paterna, quando io dico che il padre non è evanescente, non sto dicendo che il padre è autorevole, sto dicendo che è un punto di interrogazione critica che difatti anche qui è molto presente, tutto lì. E quando dico che il nome del padre fa tutt'uno con la crisi del nome del padre, o che è una configurazione dell'ordine simbolico che problematizza un punto preciso e, come dire, ne fa un punto gravitazionale della nostra attenzione, credo di dire qualcosa che sta avvenendo qui, quindi potevo citare il cinema, dove tra l'altro la funzione pedagogica andrebbe analizzata con calma. Poi la vita al cinema forse è più reale, quelle due ore che passiamo al cinema forse sono più importanti di quello che crediamo. La crisi dell'autorevolezza paterna è vecchissima, è una roba che c'è già in Locke, giusto per fare qualche... Va bene, adesso si potrebbe... Volevo dire giusto un'altra cosa a Virno sul linguaggio, perché io sono molto affascinato dalle ricerche che stai facendo tu e le seguo già da tempo. Io ho l'impressione che, adesso non per fare il battibecco, però ho l'impressione che poi questo oggetto transizionale, facciamolo, questo oggetto transizionale né natura né storia, che tu chiami linguaggio, poi alla fine è linguaggio. Scusa, è natura. È natura, l'hai detto tu stesso prima, quando dicevi che il nazismo è un eco di che cosa? Di qualcosa che avviene a livello storico, cioè l'inserzione, l'hai detto tu, del linguaggio, dei processi cognitivi dentro i processi di produzione. Io sono totalmente d'accordo. Però è la traccia, secondo me, del fatto che è difficile elaborare una concezione, è l'impresa affascinante, la sfida, diciamo, elaborare una concezione del linguaggio che sia non naturalistica. E questo ci riporta, secondo me, al problema di che cos'è il naturalismo e una serie di questioni teoriche che poi si inanellano di conseguenza. Vabbè, questo era di nuovo un po' frammentarlo. Grazie. Sì, è possibile. chiudiamo adesso. Sì, dopo questo. Sono le 2:10, no, io propongo di chiudere il chiarimento con lei, lo facciamo a parte. No, dico per ora pomeriggio, qual è un'ora? Oggi pomeriggio. Le tre. Andiamoci le tre però, puntuali. Le tre. Mi piace non essere, io devo lavorare. No, grazie. Vabbè, grazie a voi. Sì, adesso proviamo a cominciare a lavorare. Sei veramente saggia. Questa cosa sullo spazio nutrizionale è troppo interessante. Senti, io devo accompagnare Manuela. Grazie mille. Figurati, ti posso dire. Tutto piacere. L'email non la mando quella cosa. Sì, è il mio cognome, Chiocciola Fast Web Press. Ok. Figurati, però apprezzato, insomma, è interessante. Molto, molto, sì, sì, ma è un bell'ambiente questa università. Allora vi saluto, io spero di farcela oggi pomeriggio, ma c'è un appuntamento, quindi arrivo un po' sul tardi. Se magari l'intervento che hai scritto, sì, ce lo lascio. Sì, ve lo mando poi. Ah, magari per me. Per salvare il resto.